Sono rapido, sì. Qui, se non vado rapido si sente niente. Dai, a me mi vedi, fuggi, non vado rapido. Hai compreso. Il portuale paura non ne ha. Va. Paura non ha. Va. Abbiamo cambiato tutta altra cosa. Però sai come va. Sì, ho fatto l'arabe. Sono uscito. Adesso stavo casseggiando con la musica. La frequenza adesso il mezzo, adesso va nell'altra nave, mi squadrava e più di bocce. Ecco, ma che ti fa rientrare? Sì, saluta. Cazzo di rientrare. Tenga solo le sue vicine, c'è lì. Ma sono ancora convinto, ci siamo fermati qua, la mano non mi ha visto. Ma tu hai mai visto la vita, la vita, la vita, la vita, la fare la. Vabbè, a parte la gente che sta morendo, non c'è niente da dire, però questo sta. Aiuto. Questa gente che fatemi sbloccare, aiuti, uscivi, sono un'emergenza, aiuto. Ma guarda, stamattina mi sono imbarcato due ragazzi col camper. Io li ho visto imbarcare. Questo è tutto, l'ho visto imbarcare. E non ci sono scesi, hanno sbarcato loro due, più hanno sbarcato loro due assi. E oggi hanno sbarcato una persona anziana. Quindi sono andati via la Sardegna in due e mi sono andati in tre. Ormai da un po', per carità, dalla camera vogliamo andare. Poi abbiamo gente che aveva un suo controllo. Qua, io sono qui. E sono uscito perché mi ero fatto il pelle, perché la sera dopo la cioccola mi accendo la stufa e c'è presa. Poi sono uscito, mi ha rimigliato il pelle, sono venuto da casa, quindi ho girato, mi sono dimenticato di andare a rubire. Poi sono di nuovo uscito, rientrato, non c'era un vigile, non c'era nessuno! Nessuno del posto dell'ordine si è controllato. È normalissimo, sono molto sicuro che si ferma, qua non si ferma nessuno, magari su, ma qua no. Sì, qua non c'è nessuno che si ferma, però adesso i comuni sono tutti in scarpe e dove si studenti, tutti al giro di Milano, non mi dà tutti un capo, tutti a zero. Guarda, onore al sindaco di Messina, ma io cosa faccio? Sì, ma l'hanno denunciato, e me, non so come si deve pagare, io mi giro. Perché ha bloccato l'entrata e l'ingresso della gente. E non lo avevo detto. E io avrei dato un sindaco, però mi sono dato un contatto fino adesso. E comunque lui ha detto, io avrei fatto fare il comune. Perché ho pagato un sì, d'accordo che fai il comune, ma ti l'ha multato a più di un attimo di... un bel di un attimo di Sabatola, mi ha multato. Ma quando mai? Fatto uno, hanno a multare una battola, mi ha fatto entrare, difendendo il suo paese. Ah, io. Certo, c'è tutta la città con lui, Ma certo che trova tutta la città con lui. Ma come quelli, quello adesso non so, è un video che ho visto, che non so, mi sembra che in Calabria, vicino, o no, non in Messina, in Latinugo, in Sicilia, in Bari, che hanno preso 5.000 film e vanno a Decathlon per far saltare il negozio a Magnano. Ma questa cosa sta diventando un casino. Ma noi siamo già detto che non ci possiamo fermare. Beh, portuali non so come sono messi. E anche dove lavoravo io prima, gli hanno detto che non ci possono fermare, ci ritrovano andare a casa. E infatti sono in avanti. Non solo per i giusti, ma necessitati. Ma dai, siete distratti. tutto, io so a miei colleghi, ex-colleghi, che stanno viaggiando tutti, stanno entrando il camion, stanno entrando tutti, stanno carico, tutto fa. Tutto fa, tutto sta viaggiando. Però qui ci arriviamo, molti qua, molti, ma quando stanno alla efficienza. Infatti sì. Capito? Dal giorno 6 di marzo, dal 6 fino a oggi, sono uscito una volta sola, stamattina. E dice la ragione, ma non era di più. Non è nessuno con il controllore. Allora, che va? Ma sta parlando, io non lo sento. No, lo sta parlando, però non si sente. Se l'ha risposto, quello che ha parlato, non lo sentito. Sì, ha parlato. Una battuta va tirata, ma... Guardi! Sento che ho fatto la parola. Vabbè, no. Niente di particolare. Così è. Era lui qua. Senta, ma io ci siamo tirati bardati, ma che non erano extraterrestri. Sì, vabbè. La loro si è sempre fatto la... il fatto di avere i diti in ordine. Ma noi mascherine, guanti, di tutto, ma la pure male, nel nostro campo la fare così, noi siamo i guanti in pelle, quelli che sono veloci da levare, da mettere. Dobbiamo mettere i guanti in gomma, più quelli in pelle sotto, così. Ma aspetta, quando guadagno il mio, cosa va via di... Io facevo il carrellista. E sul carrello devi avere il casco, mascherina, ma non di quella di carta, di quella con la, come si chiama, con i filtri, che usano i carrozzieri, grazie, guarda, ultimamente facevo usare quella lì, a poi di via la mascherina fuggi e faccia dalla cintura, di pisava o Iulia. Ma no, per carità, parliamo di un inghiero. Tu che ci sono, mi senti? Ecco. Non ho immaginato, non ho detto, non cambia la durata, non cambia qualcosa. No, quando si vede il cambio non lo vedrà. Avanti un giro, senti? Sì, fai un passaggio, come hai detto, mi si chiama? Sì, buonasera. È basso, ma lo sento. Sì, a voglia, dai. Va bene, mi state con te. Ciao, bene. Anche la tua, bello comprensibile, non c'è problema. Il segnale è basso, però continua a spingere, l'importante è parlare. Sì, va lì, già va bene, se cosa è una cosa bene, io ti sento benissimo. Poi non lo so, Eugenio dice che è molto comprensibile la radio, vuol dire che ti ascolta bene. Cappa, vai Eugenio. Sì, comunque leggerò, ecco, va benissimo, io lo ascolto bene. Ehi capo, lo conosci, dai, il bambino da sotto. Cos'è? Corvo e no, quella nera, come si chiama? No, lui c'è il bambino in frequenza, lui chiama Pantera e basta. Ah, non ho capito. Corvo e quella nera, corvo una cosa del genere, è un'altra persona. Cappa per Roger. E il bambino, va bene, il bambino. È più semplice. E ti avanti. Non gli piace essere un felice. Come va? Rinchiuso. Ehi, metti male, dai. No, mica tanto. È tutto stare in casa un po', poi passerà, come dicono i politici. Passerà. Avanti, oggi. Oia, passerà, sì. Non viene né passerà e né passerà, chi c'è un problema? Guarda, su questo ha svegliato molti cibimenti, anche ha svegliato. C'è gente che nel cargo è uscita fuori tutto un corpo, uscita. Con temi di macchina o portatili o una cosa all'altro, sono cibi di tutti gli altri. Però se si sta riempendo, è bella frequenza, sta riempendo. È un buono, vabbè, questo come va bene, ha fatto qualcosa di buono, meglio non esserci, perché ma tu vieni uscire, uscire, vieni uscire, senza che tu, questo è fatto di vino. Avanti, e chi? Sono un sacco di gente, non nuova, va, gente che ha rispolverato il subito. Andava bene, va benissimo. Speriamo che continuino a usarlo, però. Se no, una cabina di nuovo, una cabina bassa, la ricordo a Figos. No, per carità, la camera di nuovo, cioè, se rimangono, è meglio che rimangano così. Speriamo che rimangano. Ma mi pare che finito, dopo. Avanti, no. Ti ha colore, c'è confusione. E che ricevitore c'è? Ah, scappa. Non lo puoi mai usare come ricevitore, però. Perché non è a norma. Scappa. Allora io sapevo che non deve avere legge che per il microfono. Non deve avere. Si va visto, anche se gli mette un taglio finale, e non è a norma. Scappa, tutti a scappa. Va bene, dopo io non sapevo, pensavo che ci voleva, che non doveva avere l'aggancio di ciò, va bene. Ok, va avanti, Eugenio. Ricevitore, ma cosa riceve? Che frequenza riceve il ricevitore? Tutte o sono UHF o radio amatoriale? No, vedo altre. Invece il mio va da 26 a 30 plurali e non si può ritenere un ricevitore. Ho capito. E oggi? Sì. Bene, questo. Io ti ascolto sempre bene, no? Perché hai detto apparato. No, no. Tu Galileo, quando? Tu Galileo. Fai un passaggio strano. No, prova a toglierlo del tutto, prova a toglierlo. Ok, fa più bene la mia. Se sta vicino, ti finisco il tempo. No, non sto provando più. Ma se ti apparo la radio, tu ti parisci, la ti cominciamo di tre complimenti di vita. Invece è uguale. Adesso usando la stessa intelligenza, dovrebbe ci pensare. Perché che è giù? Guarda, forse sei un po' più limpido qua, ma tu sei un pelo, eh? Vabbè, dai, è un malattino, cioè, è un malattino, ma sei tu già guardato. Non ho più compreso, ma mia, 50. Sì, adesso è come era prima, qua. No, adesso si va bene. L'unica cosa che ogni tanto mi uso dall'altra parte e mi recupero la batteria. Non si sa, fatto sentire, ci si può recare, ci si può recare. Entra con la sospensione. Poco entra. Mi era sempre attaccato, era il re della frequenza. Ehi, quando faceva... quando fa ancora un lavoro, allora sì. Sì, ti ascoltiamo, ma sei di dove sono qua? Dove che ti sei riuscito? Ma adesso c'è la faccia da culo, che non è italiano, era tipo spagnolo. Scende a zero, in Italia, ma non lo senta nessuno. Sì, è basso, lui è basso. Italia. Va bene, tu mi chiedi in Italia. Devi mandare una bandiera. Valentino di sei, mi fa vedere un coronavirus. Cavoli che vieni in Africa. Cavoli che da scuri. E da lì. 787.5 R, cos'è? 787.5. Ma cos'è? R? Ok. Non lo so. Cazzo, vai. Non sapevo cos'era per R. Sì. Come vedete, è rapporto per i nostri. cappello c'è un marullo, non è sì. Sono rosso. Lui si alza, non mi risoppucino. Ehi, sei finito. Va bene. Questo mi sono franco, non sono una persona. Ma fa dei cavi. Come? No. Sente benissimo qua, chiara. Ora apprico la frequenza e si ascolti Nord Sardegna Italia. Ora breco frequenza e si ascolti Nord Sardegna Italia. Ora breco frequenza e si ascolti Nord Sardegna Italia. Ora breco frequenza e si ascolti Nord Sardegna Italia. Questo canale però un USB è una cosa e non ci posso usare sono cercando di chiamare te da me Franco qui saluto ma mi stai parlando no c'è c'è dietro lì un USB qua ma no non sento niente io ma io ti arrivo da poco ah tu eri in banda e io a te fammi sì. Mi pare che abbia anche preso, però non ho anche preso il capo, l'ho preso soffrendo la riga. Appunto. Allora, c'è Luca. Da quando ci sono disastri? No, sono due da corso e uno da Codora. Ma lo sento solo a te, tu, Franco. Come senti solo a me? È un genio. No, da qua non lo sento un genio, da casa sì, ma da qua no. Luca mi sono contento. No, non lo sento, Franco. Cavolo, non sei a casa tua? Negativo. Nemmeno io lo sento, non lo sento neanche tu. Non lo strano. Da qui la regola questo segnale. Stamattina non vedi a casa tua? No, qua. Ah, il segnale l'ho preso stamattina. Ma a casa mia che ti cavere? Va bene, vai avanti. Luca del Monte. Senti se lei Luca. Ciao, certo, sono a te. Allora andiamo. Ma che bottato sono? Di mamma! Ma che bigliato io? Non ho ancora la Claudio. Mi sa che sì, No, non lo so se lo fanno già. Non ti credo. Sì, vabbè. Va bene, vai. Vuol dire che sta uscendo bene la mia radio. Ma chi è quello col bimbi fra? Bambino. Ah, bimbi sente e basta, passo basso. Ehi, vabbè, lui è andato a basso, non so, ragazzi. Non è tutto tutto, magari forse non è tutto tutto mio. Ho capito. Non è un bambino, sta andando a casa dei nonni, no? Lo so. Allora. Cosa? Si fa un balacchino a breve. Sì. Non so se trovi a comprarmi quando tu vai a comprare i barattini che poi costano sono tutto io, No, non vedo come rifuggerai, se mi sembra niente. Allora vedi, è bello come la benzina qui. La benzina la concentrazione. Come c'è la cazzo? Dai, tu! Vieni, Sì. No, io l'ho comprato con la mia voce, ma comunque. Centrale. Sono pensato 2009, ma non ho davvero, anche a me naviga molto lento. Perché prima era un bel veloce, ma adesso la si avvicinerà, allora gli auguri. Sì, la faccio. Oh, senti, si parla di una bicicletta all'altura. E ci avvicini di qualcuno. Rimodula Eugenio. Ok, niente di particolare, dai, scusa, avevo messo l'attenuatore, c'è il 9.20. Marco, quindi è normale, Marco. Sente come via fra. Marco, Eugenio, mi senti? Non è poco qua, e non usare che sono franco di sosso, non le faccio manco di tu io. Marco, basta entrare e mi chiama. Cazzo, è una storia che di non le faccio di tu, ero franco. Marco! Ah, ecco, dimmi... Luca! Ascolti l'FM. In FM sei 9.10 a Radio 5. Mi ascolti allora, andate, facciamo come mi sentite. Sì, ti ascolto. Avanti, allora, vieni. Oh, vieni a fare i due. Ok, io. Andiamo, l'AM. Vanno io, l'AM. Luca. Lì a Franco. Così. No, non arrivo bene qua in FM. Sono un po' di più. 9.10 Radio 5. Vabbè, l'FM dai, è un'altra cosa. Sì, beh, sei cazzo. Un'altra cosa qui. È tutto più silenzioso, tutto. Ma che tu arrivi bene, fra, non sa problemi, sia in AM che in FM. Ultima radio. Cazzo. Sì, vabbè. Un attimo da 13, mi tocco da 13. Piano piano, basta una buona antenna e tutto va bene. Vabbè, dai, comunque sembra così, ma l'antenna ci vuole, inutile. Ci vuole, boh. Adesso vediamo se riesco a costruirla per qua. Puoi avere il barattino che ti piace, la radio che ti piace, la migliore di tutti, se non hai antenna, non vai a nessuna parte. Si conferma. Sul tetto alta, baracchino da 10 euro, anzi fatto con sì, l'ultima cosa, lui fa ordinario. Non senti che ci hai messo nel senso, nel tempo. Sì, appunto. Vabbè, per dire, no, ma ci vuole tanto lettera per 50 euro. E arrivi lo stesso, un po' per l'antenna. Ecco, adesso è che non trovo il microfono, però che avresti fatto una radio. Diciamo, a me, dopo tempo che non. Ma che non lo sento. Ce l'ho qua, ce l'ho, vicino. Però non c'è microfono per lui, mi sembra. C'è quello di Sassari che non sento, come si chiama Nicola. Se Nicola si vuole mettere un'antenna anche di macchina sopra il terrazzino. Io mi pare l'ho sentito una volta, l'ho sentito e l'ho portato abbastanza bene, ma molto bene in radio, e lì vicino a Santa Rosella, e l'ho portato, l'ho sentito qua, l'ho sentito. Poi non l'ho più sentito, perché magari lui abita in un'altra zona, e la faccia la sua, e non l'ho più sentito. Io fate tutti i correnti forti. Purtroppo sto facendo con un po' facile, con un segno di gomma, non è che puoi ascoltare il salto, per portare. Ma sei Luca! Sì, ciao Gianni, e beh, mi senti? Buonasera a tutti, dai, sera lo più lungo a questa parte. E meno male si è fatto sentire. Ciao a te Eugenio, ciao a tutti gli altri amici, là. Oggi ho guidato lui. Ah, dopo quanto? Dopo 2 mesi quasi. Ciao Gianni, buonasera. Buonasera, sono andato anche a farmi la spesa, ho fatto 1 ora di fila. Avanti, avanti, a chi tocca, dai, tutti incantati siete. Non perché io sono un bel uomo, ma non c'è bisogno di incantarvi così. Vabbè che non ci vediamo. Ma mi conoscete però. Non mi ricordo neanche voi ci fa. Come sempre? Io già me lo ricordo. Gianni? Sì. Come sempre mi stai ascoltando? E come se ti spaventi anche tu quando ti vai allo specchio? Non penso brutto. Non penso brutto. Non si spaventano gli altri, come me lo spaventare io? Come me lo spaventare io? Ricordati che mi chiamano Gianni il Caldo. Gianni? Sì, Fatto bene come sempre mi stai ascoltando. Capparu. Ma come è la tua risposta? Di proprietà del 50, c'eri tu e Eugenio e cose, Frank il 3 ma c'era di proprietà. E vabbè, ma sono forti di loro, no? E vabbè, ma non posso rispondere a 3 persone contemporaneamente, non so che sei più forte di loro, anche perché sei più vicino. Avanti, Franco, cosa ci racconti? Perché Luca è più forte di me? Boh, prova. Luca! 1, 2, 3, prova! Luca, stai zitto. Sei a più forte di te, fra. Scusate, più vicino ce l'hai, è per quello. Cava. Ma già siete tutti belli amplusi. Eugenio, cose gumminenti. Mi sto guardando YouTube, una delle mie passioni. Mi ha fatto la mountain bike. È windsurf. A te ti piace mountain bike, windsurf, da voi cosa vai? La moto? Di passione e poi altre ne hai? Sì, no, quelle tutte dispendiose, come vabbè, le passioni sono tutte dispendiose, vabbè, c'è il baracchino, io c'ho la radio, la pesca e la fotografia, tre passioni. Oh già, ma hai detto che stai guidando, ma poi siete che tu? Quello della frizione sinistro, no? Io sono a sinistro che sono stato operato. Che lo fai? Sì, tranquillamente, fra, tranquillamente. Anche a salire e a scendere, non ho problemi. Pensavo peggio io. Fosse stato il destro che devi stare sempre accelerando e facendo, no. Ma la frizione su viaggi lunghi e cose la usi poco e niente. Sì, è meglio la frizione del freno, però abbastanza chiaro. Vabbè, adesso le macchine sono, le pressioni sono più leggere, anche quello. Poi la mia c'è una frizione particolare, in salita si blocca da sola e poi quando tu accendi rispunta, capito? Non è che devi prendi come si faceva prima frizione acceleratore per quando siano salite ripide che ti dovevi fermare. No, sono tutte così a futtidini. Forse non tutte così, magari è come l'automatica, l'automatica la pressione va un po' poco. Non sono tutte così, ci sono quelle che devi fare ancora il giochetto acceleratore frizione. Quelle diciamo di una certa categoria sono così. Vabbè, comunque non dispiace, è quella salita che c'è tra via Nizza e via Prunizzetta, ce l'ha presente? Boh, io non sono fatto proprio, sai, non l'ho fatta, ma delle vie no. Vabbè, Luca, lo senti dov'è quella salita che c'è tra via Nizza e via Prunizzetta, quella salitina? Sì. Quella lì prima dovevi stare acceleratore e frizione per spuntare, perché ti ci fanno le macchine da una parte e dall'altra, dovevi stare sempre attento, come non c'erano più macchine, dovevi dare un'accelerata e scappare perché passavano le macchine una dopo l'altra. Adesso con quel sistema lì si ferma, poi io accelero, e basta tranquillo. Ho capito, non c'è il semaforo là. No. Presente tu, lo sai dove abita Marco? L'ho capito, via Nizza, guardi ve l'hai preso. No, dove c'è, dall'altra parte, dove, dietro, dove c'è la coppia che ce l'ha presente? Quella salita lì, è micidiale quella salita. Ah, che poi ti porta, ho capito, per andare anche a Ponte Nuovo, giusto? Esatto, fai via Pulizzetta e poi vai a Ponte Nuovo. Sì, è pericoloso, è vero. È molto comodo quel sistema lì, perché basta che tu accendi, passi il razzo, te la tiene bloccata, capito, la macchina? In surplus. Sì, ti dà il tempo di spuntare, è vero, lo so, adesso mi ricordo, avevo provato una macchina del genere, non mi ricordo quale. Forse quella di Mirko ce l'ha. Cappa. Avanti, Giorgio, tu perché hai avuto sempre macchine di una certa categoria, pensi che siano tutte così, ma non sono tutte così. Vabbè, allora io le ho avute sempre così, poi non so. Prova a comprare un appunto, compra cosa di bussi, una Ford Fiesta, questi sistemi non ce li hanno. Sì, questa è la Ford Fiesta free. Se prendiamo le lombarde non avremo quella di cristalli per farti una cazzata, però se la prendiamo una assessoriata siamo così. Adesso, quando ho preso io, ad esempio, una macchina, c'erano proprio veramente pochi, l'ho soppressa, dando tutti i vestiti, l'ho soppressa, che cos'è? Il sistema con il freno allo stop, si spegne fuori qua, alla fine di tutti. La mia non ce l'ha, quella ce l'aveva quella che mi ha dato in sostituzione, la Jeep, quella nuova della Fiat, quella nuova, vabbè, che vende la Fiat, dai, la Jeep, quella lì ce l'aveva. Cosa vedi, la Compass? Ehi, è la Compass, sì. Bellina, però ormai io mi prendo le bocca adesso, come finisce tutto qua, vado e mi prendo le bocca. E dove lo prendi? A Sassa? Sono a Olbia, Cavagava. Non ce l'hai concessionario qua a Sassa? Sì, ma sono la Lucoli. Vabbè ragazzi, io ne approfitto che adesso faccio una concuccia per voi, mi riuscendo a lavoro alle 6 e mezza. Ciao ragazzi, a notte, a stasera, una notte di nuovo, questo è stato. Ciao! Ciao, ricordatevi che stavolta si cambia l'orario. Un'ora avanti già. Via. Ma il telefono lo fai in automatico. No, io ho cambiato già tutti gli orologi, così allo manco viene a mente, lo chiamo da prima. Ciao a tutti, ciao. Vai, vabbè. Ciao, tanto lo so che l'ho cambiato, quindi so che è un'ora indietro. Li faccio perché io ho gli orologi appesi, delle camere, eccetera, quindi devo, so, 1, 2, 3, 4, 5. Ciao, Giulio, lo fai entrare da lì, mi raccomando. chi è costui? Ma si fa arrivare al segnale 5 e non ho capito chi è. Ma forse da furia. Adesso già aumenta la propagazione. Solo voi siete rimasti, tu e Luca. Bambino, però Bambino mi sembra ancora ascoltato per fare qualcosa. Oh Marino, devi al più presto entrare. Non venno. No, non dicevo Marino. Marino è entrata, sta travati da giù, io metto sempre signata. Cava. E lui c'ha la combriccola sul 23. Chi è che sta chiamando a canale 10? Attento amico, fatti sentire che sei basso, cambio. Beh Luca, l'apparecchio con l'omologato dovrei messo. L'apparecchio con l'omologato? Quell'omologato che stavi usando ieri. A casa da mamma. Questo qui cos'è? Il typo normale? Cosa già? Questo cos'è? Il typo normale? Typo vuole meno più 4, sì. Ah, c'è a casa di Marina. E via. Ah, scappato, sì. Già, io, cioè, stavo a me qua, capito? Solo perché prendiamo un po' di roba a vestire. Non posso starci provata questa roba, eh. Io sono abituato a cambiare lui santo giorno, E come tutti, penso. Vabbè. Mandare. Sì, vabbè, poi non è solo per la roba, no? Magari senti la nostalgia. Vabbè, ma se non si può, non si può, comunque. La figlia lo faccio. Non si può. No, ha ragione lui, ma che ti è venuto tu? No, assolutamente no, sei venuto anche per stare qua. Non si può, non si può. Per interesse, la roba tu. Come? Per interesse, la roba tu. No, non si può stare qua. Che poi lui c'ha anche distrutto la porca parte. Torra, oia. Oia. Cosa sei a cucina? C'è a cagarella sotto. Non so, perché stanotte ho avuto un forte mal di pancia, perché io ho avuto i calcoli, là ci si spiega già, capito? Quello che ogni tanto ci mette in moto, mi creato bene. Vabbè, dai. Adesso, come lo giustifichi? Scrivi, sono andato a casa della mia ragazza perché mi mancava. Vabbè, non devo giustificare niente, no. Siccome io stavo qua, sto sempre qua, sto la mia roba qua, cosa fa? Hai ragione, ma quello dovrebbe venire secondo piano, Dimmi Franco. Guarda, sono uscito stamattina due volte, sono uscito una dopo l'altra, perché c'era un cane che stava controllando, a bordo un po'. A Sussu magari, ma a Sassari non ti puoi muovere che sono controllato tutte le parti. Allora io stavo a Chiara, sono andato prima a fare delle commissioni, sono andato prima a prendere la pensione di mia madre, poi a fare dei pagamenti, e lì nella tenda c'era la parte dei carabinieri, hanno fermato le macchine, non stavano controllando. Sì, ma fatto non è una grande città, ma io quando c'è un caro, e poi vanno a scrivere nella Facebook, in queste cose qua, che sono contro uno, contro di qua, contro di là, non c'è un capo qua. Appunto, la gente passeggiando alla marina col cane, aiuto, scendendo lì a piedi. Ma col cane puoi passeggiare, solo che devi essere nei pressi di casa tua. Alla marina, arrivi alla marina, devi arrivare tutto gatto lì sul rettilineo. Sì, chi vuole tutto? Sei già lontano dal paese, là. E certo, Gianni, sono 3 km a scendere e 3 km a salire. Cioè, non sei lontano. C'è la ciappa di Kibi Guai, ciappa di Kibi Guai. No, io scendo, lo sai cosa sto facendo? Lo sto portando in cortile il cane io. In cortile il cane. Quando lo porto io, poi quando lo porta mio figlio lo fa passeggiare fuori. Ma io lo porto in cortile perché non voglio camminare più di tanto, non si sa mai. Adesso oggi per dire che mi sono strapazzato. Ho fatto la spesa e ho fatto spesa a velo, ho speso 120 euro, però mi sono fatto la spesa, mi ho riempito tutto. Ehi, ciappa, una volta che sei uscito, io devi fare così, devi fare. Però, per adesso non ti devi abbassarti di scala, ti devi abbassarti di scala, è un casino. E poi, potresti infatti quando lo potrebbe, potrebbe anche aggravarsi la situazione ed è meglio tenere più caldo. Ehi Fra, quando sei solo o te ne fai o non te ne fa nessuno, io me la giudico io. Mio figlio non poteva venire in macchina con me perché bisogna andare una persona solo, quindi cosa ci viene a fare? Oh già. Ehi. Nuova scossa di terremoto a Porto Torre. Cosa? Nuova scossa di terremoto a Porto Torre. Ma stai scherzando? Non sto scherzando, no. Mi sto qua. Ma lo condivido adesso. Guarda, l'ho appena pubblicato. Ma oggi, stamattina? Oh, tu non ci crederai, ma ho trovato tutti i segni dei mobili in terra. Mobili. Sono tutti spostati i mobili, lo sai. Guarda la dinara. Sarà un maremoto sicuramente. Che avevi messo tu una cosa, una scossa, una scossa, il terremoto? Fratello, qui gira la giacca, poi gas, giramela a me. Ah, è finito qua. Terremoto nel tratto di mare, tra Corsica e Sardegna. Continua a tremare nel tratto di mare, tra Corsica e Sardegna. Nella notte, strumenti sismo Azur, ente geofisico francese, hanno registrato un terremoto localizzato a 75 km dalla Dinara. Avanti break, va avanti, chi è? Chi è il break? Avanti! KK, non è un terremoto ma è sicuramente qualche cosa del mare, dai, il mare che ha trasmesso poi le scosse. Io Luca, mi sono trovato i mobili spostati, lo sai, c'è il segno. Ora di fantastico. Gianni. Sì, ho detto che ho trovato dall'altra volta, da quando c'era stata Ulbia e cose del genere, mi sono trovato i mobili spostati, c'è il segno dei mobili, se non ci credi che Claudio te lo vedi a casa te lo faccio vedere. Non esiste il terremoto nelle nostre zone. C'è qualche bufala quella. C'è il maremoto, però da noi. E poi il maremoto fa vibrare anche la terra. Guarda che una volta noi ci siamo alzati in letto, non sto scherzando, eravamo con Liliana dopo pranzo riposando. Pensavamo che era Manuela piccola, pensavamo che fosse lì sotto al letto, che a volte si metteva sotto al letto. E invece ci siamo alzati in letto così e mi ha telefonato per 5 minuti, mi ha detto Gianni, terremoto, qua sta ballando tutto. E te non si preoccupi che qua non arriva fuori. Te lo ricordi quella scossa che c'era stata? Foto ma non è zona sismica la Sardegna, quindi sicuramente qualcosa in mare che ha registrato il servizio sismico, ma non abbiamo niente a che fare, non è sismica la Sardegna. Buonasera a tutti. Claudio. Oh. E adesso le guardi. Che bella culo di scimmia. Tutto è là. Di pattugliaggio. Allora praticamente la macchinetta ha usato io non ho visto da tagliare questa, ma quello dei fianchi proprio ce l'ho fatta alla mezza, come si dice, e poi la macchinetta ha iniziato a tagliarmi bene e sono uscito un po' così, dai, ma io pensavo peggio, ero disperato, poi c'è la Maria, io stavo alla mezza, andavo piano, non tagliavo più la macchinetta. Io mi sono mai fatto la macchinetta, io ce li ho a zero, sono a casa qui, a zero completo, no, la metà non ci riesco a passare mai in testa, però ce li ho a zero, capito? Adesso mi guardo per foto, comunque già, non ci dobbiamo preoccupare, non ce n'è terremoti che possono danneggiare niente, sapete, non è una, è un'isola, non è sismica. Ciao Fra, buonasera. Ciao Claudio, infatti io quant'anni fa che non l'avevo mai inteso di dare la loro cosa, avevo la trava che non l'avevo inteso, se l'avessi sentita a casa mi l'avessi sentita qua. Beh, 75 km dalla Dinara può essere verso la Francia, quella zona lì, verso la Turchia. Non ci dobbiamo preoccupare, dai, tutto qua. Avanti Gianni, riprendi Gianni. Aspetta un attimino che sto rispondendo a una collega. spara al telefono. Io ricordavo, lui gli faccio quel dire, lo avevamo un bel lunghi a nostra. Poi fa abituato, mi... No, non fare fateli tutti a zero, che stai bene, fateli tutti a zero, l'ho visto come te li hai fatti dietro, vanno male, vanno male. Fateli tutti canti a zero e buonanotte, te li fai crescere a buio. Cazzo Luppi, si gioca a cola di rondine, a cola di rondine direi fatto. Ma non posso più recuperare nulla, Cla. Ah, già vanno bene, guarda bene a su, metti il berrettino, già cresci. Già cresco, già vanno bene. Sembrano più a cola di rondine che a culo di scimmia. Cosa, Cla? Che sembrano più a cola di rondine che a culo di scimmia. Ehi, vabbè, allora, se tu guardi, aspetta. Guardi, se il primo profilo, c'è cioè quello verso sinistra, quello va bene, già va bene. Allora, io mi sono distrutti, va bene. Il barbiere ha poco da fare anch'io. Devi fare tutti a zero, tutti, capito? Tutti a zero e poi già crescono. Io ce li ho tutti a zero, però già stanno crescendo adesso piano piano. Non c'è un cartellino, un cappellino, vabbè tanto usiamo il cappellino adesso perché con il viaggio non si può fare. Poi a Fra. Guarda perché vai alla casa da visitare, vai. Quindi del barbiere ti sta lui, ti sta come... Ma è bellissimo. Ehi Lu, chi ti vuoi bere della gazzemma, chi ti virai a cosa, a cola di ronde, noi tu devi fare a cazzo di cane. Quella grande, adesso smontare l'altra, poi con calma, quando possiamo uscire ti chiamo, vieni e te la prendi. Dai, già non ci sono problemi. Ascolta, tu che sei molto lontano da me e sei molto più in alto di me, come sto uscendo da te? Guarda, sì, quasi Santiago 9, va bene. Ragazzi, non vi posso mandare la foto. Faccio un'antennina di gas. Allora, Dani, hai visto il libro che mi ha chiamato fatto, l'acqua di scimmia? No, non l'ho ancora aperto Facebook a guardare il cazzo degli altri. Sì, ma guarda le tue allora. Come i miei telefoni. Ah sì, no, dicessi, guarda le tue allora, quello che pubblichi tu. Aspetta che Gianni, tu te lo ricordi da Danilo, sì? No. Io non sono a casa, Danilo. Ah, non sei a casa tua? Ah, ecco perché... Ma io pensavo che fosse a casa tua. No, sono in campagna da stamattina. Sono in campagna. Quindi per essere anche tu in basso ti prendi anche molto bene, da? In basso? Sei su più alto di casa. Okay, in che zona sei? Sono a Monteoro, Monteoro dove c'è il ripetitore della RAI. Ah, sì, già ho capito lo stesso. La zona solo per... Ehi, già c'è venuto Antonio. Già c'è venuto Antonio col padre, eccetera. Aspettate. No, sono lì tutto il giorno, dai. Adesso vediamo se sentiamo stasera o domani. Dai, va, voglio fare i capelli. Aspetta che do un'occhiata. Come ti sto arrivando, Gianni? Bene, bene. Prova. Sì, vabbè, bene, bene. A sorso arrivo. A sorso arrivo benissimo. Franco arriva fortissimo. Prova a vedere tu come ti arrivo io. A Franco stai dicendo a me. No, Franco arriva a Santiago 9, cioè 9-10. Franco è il segnale più alto, adesso vediamo il tuo perché non l'ho visto. Io sono con un dipolo da 2,75 m, da un albero all'altro. Prova a vedere quanto mi arrivi. 1, 2, 3, prova, cambia. Quanto è Franco mi arrivi? 9 più 10, io quanto ti arrivo? Lo stesso. Siamo lì, siamo lì. Vabbè, sto usando 140, tutta processore, con l'MC60. Le watt sono, dovrebbero essere intorno ai 10 watt, 8, 10 watt. Capo, avevi le watt a fuggire? Sì, sì, sì, fuggi sì. Avevamo bisogno di arrostire, di fare, di mangiare qualcosa di diverso. Avevo un bel pesce, frizze, carne. Abbiamo mangiato bene, sono anche riposato un pochino, cane sta in giro giocando, facendo, poi vediamo se riusciamo stasera, faccia freddo però, beh, un bel freddo. E così non devi avere il pensiero di portarlo giù, ho gommice di zente. Sì, ma c'è freddo già, non è bella giornata, domani addirittura ha dato acqua, di nuovo. Domani ha dato pioggia, tutti i meteo hanno dato pioggia domani, non pioggia forte, come quella dell'altro giorno, precipitazioni sparse. Quindi non lo so, adesso decidiamo dopo cena cosa fare. Hai fatto bene a dirmelo, così ritiro la roba stasera, se no mi si infondi il tutto d'oro. Vabbè, riprendi Danilo, dai. Sì, stavo dicendo a Claudio che in campagna fa un bel di freddo in confronto alla città. Infatti scende anche un bel più di umidità. Ah, dove è un freddo, sto fuori un attimino così a fare una sigaretta, cosa fare? Ma è freddo. Infatti stiamo dicendo cosa fare. Ma penso che ce ne andiamo comunque, sicuramente. Qua a casa, dietro casa c'era il sole stamattina, sino alle 5 c'era il sole. Oh, c'è un po' uno più di sole, ma c'è freddo, è fredda la giornata. Stamattina stava molto meglio, capito? Stamattina stava bene. Poi si è un po' annuvolato e c'è freddo. C'è freddo, capito? C'è freddo. Vabbè. Vediamo cosa fare. Comunque sappi già che io ho questo dipolino, l'ho fatto, uno me l'ho fatto per me e uno l'ho fatto a Sandro Tigre. E questo è uno di stazionari, è 2,75 lungo, praticamente allunga i bratti e si è arrivito, capito? Cavo 10 metri di reggi 58. attaccato da una parte all'altra, quando ho finito di parlare stacco le mollette, lo piego e lo metto a parte. E arrivò da tutte le parti, anche da Eugenio arrivò, da Eugenio a Porto Torres, quello che io stavo dicendo a Nicola. Ci rivolto un dipolo di ghisi che ha già fatto io, me glielo metto nel fagiolo, come un filo da stendere, allora c'è dove arriva, da tutte le parti. Buone, da una parte all'altra devi il filo da stendere, e ricava una parte di filo da stendere sul buon inchino. No, ma il dipolo mi dà problemi, quello deve stendere, come cavolo fa? Se non è che fa come Rosa Verde, che vira via pure per sentire la roba. No, ma non lo c'è il filo da stendere, no. Messo all'interno con due occhiali da una parte all'altra, messo all'interno, non succede niente. Io ce l'ho a polarizzazione orizzontale, invece c'è a polarizzazione verticale, capito? E va bene, basta saperle fare le cose, se non ti incasini già le fai bene. E va fatto 2,75 m a parte, 2,75 m all'altra, due braccia e uno di discesa. Io l'avevo fatto un pedino, ce l'avevo, ma poi l'ho tolto, ce l'avevo sul tetto io. Ma ci sei 2,75 m, boom. In totale. E allora, ho già 2,75 m, 2,75 m. No, io l'avevo fatto così, l'avevo fatto due braccia da 2,75 m. No, questo è 2,75 m, boom. È appena più grande di una porta. Un braccio? No, un braccio solo, così è un braccio. È moncolo quello lì. Perché due braccia, fra? Perché? Devo mettere 2,75 e 2,75 a braccio. No, questo è un braccio solo. Un braccio solo. Tu lo hai per 5 tappi. Io ne ho fatto uno, cioè lo sto usando. Ed è 2,75 a braccio. 5 tavi? Questo è un quarto d'onda. Oh. Aspetta, aspirando il telefono. Alleluia, andiamo, cazza, bobo. Oi, oi, bobo. Attenzione, Lucrezia Borgia. Qua c'è al massimo ai 4, mi ha detto. 3, 4, anche a 1. Ma così muove la faccetta. Non mi dice lo piazza lì. La borsea, la borsea, fatti possei. Era tu, non è me, la borsea, la borsea. Ma si è pagata l'hai? Oh, lo sai che hanno messo multe a quelli che cantavano nei terrazzi con la musica? Hanno multato un bel di gente. Come ti ho sentito? Perché dice che non ho pagato la SIAE, non si può trasmettere musica se non paghi la SIAE. Ah, cioè, va dimmi tu, in questi periodi qui vai a fare certe cose, ma va a far Napoli. Quella lì sono... come si chiamano? Ma... qui che vanno a mettere le multe nelle discoteche, eccetera, eccetera. La SIAE. Non so già, tu ci paresi? Io l'unica canzone che ho messo, che domenica, ho fatto le finestre, ho messo la radio Venere, quella del... Giro d'Italia. Giro d'Italia, ho sollevato un po' la verità, con sistema, non so, un Fiat, che tocca da LG, e basta, se no non ne ho fatto di casino. Io ho cantato anche dalla finestra. Io con quelli di fronte, una famiglia di quelli che c'erano di fronte a casa, c'erano i figli, il padre, la madre, no. E io che stavamo cantando. Il pomeriggio troppo azzurro e lungo con te. Tu cantato la nuova cosa. E allora? Questo è già quel gioco. Se giochi, lo gioco con le coltelle, quelle cose che gira, ti dici che hai coltelli, dai. Abbassa per la radio, appena che sei troppo forte, non ti ho capito. Ho detto, quel gioco che c'è un altro coso che gira, no? Una specialità, una rotonda. Certo. Tu, certo, tu, e tu mai? No, non ci gioco io a queste cose, non è che mi piace tanto giocarci. Non gioco con quei giochi lì, non ne faccio mai. Tante amiche mi chiedono, vuoi giocare questo? Oh mamma mia, non ho pazienza, non ho pazienza. Prima già li facevo, quelli da solo però. Ah, no, io gioco a poco, che c'ho un bimbo di soldi, che soprattutto questa mattina. Guardate, ne stavo curiati, era poco per poker virtuale, no, ma l'ha messo. E oggi passo tutto. A chi si arrascia in dicembre? No, ti faccio un po' di roba giù basta lì. Perché ci vado, come stavo di pazzi, quelli erano più poveri di me. Proprio poveri, io con pantalone avevo il quadruplo di chips. Poi si è andato a stavo di altri, io più povero, ma li casagnato. Mi ha preso con un jack 4, praticamente ha fatto un full, e mi ha casagnato, ziccato, e io messo tutto a zero. Avanti, lupo grigio, avanti. E allora cantiamo Fatima andare dalla mamma a prendere il latte. Sì, ma non ho capito se puoi cantare solo le canzoni di 70 anni fa oppure se hai il permesso di cantare quello che vuoi. Vabbè, tutti i canti molti. Aspetta, sta parlando. Poi va le canzoni di 70 anni fa, cari già, boh. Io di 70 anni fa non ne so nemmeno nulla di canzoni. Tu Luca le sai di 70 anni fa? Non ero manculato. Cosa? Non ero manculato, te. Ma infatti non manco io, non è questa di nascere, ci sono canzoni che passano alla storia, però canzoni di 70 anni fa non penso proprio di conoscere, le più lontane che conosco è Fatti mandare dalla mamma, Baciami, quella lì, cioè canzoni però che sono degli anni 60, 70. Ah, poi quella è la vabbè, insomma già si conoscono, canto come ha detto lui, anni 60, 80. Poi cosa si chiama? Gianni Morandi, ma non sono di 70 anni fa, Baro. Di 70 anni fa io non ne conosco. Aspetta un attimo, Lupo Grigio, tu ti ricordi qualche canzone di 70 anni fa? Bianco Natale. Se non ne sai, di 70 anni fa cosa canti? Te la devi inventare. Tu ne conosci di 70 anni fa? Bianco Natale. Vabbè, tu sei anziano. Quindi degli anni 50, canzoni degli anni 50? Degli anni 30. Ah, allora non sono 70 anni fa, sono 90 anni fa. 9, 0, non sono 7, 0. E tu mi dici, canzoni 70 anni fa è del 50. Se mi dici degli anni 30, sono 90. Dimmi se sto sbagliando. Sì, ma lui ha cantato una canzone degli anni 30. Cantante? Ha cantato una canzone degli anni 30, così è Lupo Grigio. Ma non ho capito il cantante. Aspetta, se ci parli sopra non si comprende nulla. Lupo Grigio, salitene al piano di sopra perché non si capisce nulla di quello che sta dicendo, si sta sempre abbassandoti di più. Salitene in terrazzo, se no non ti capiamo cosa dici. Dai, avanti Dani e poi fai girare perché se no rimane ferma la ruota, dai. Io questo che sta parlando adesso non l'ho sentito, manco il segnale si attacca. Chi è? È Lupo Grigio, sta parlando dei cappuccini con un portatile dal suo terrazzo. Io lo copio ma molto basso oggi. Solitamente va sul tetto a modulare, se da lì già lo prendo bene. Arriva Santiago 9, Radio 5, ma da casa sua, dal terrazzo, proprio oggi non si sente nulla. Ma io proprio zero, manco lo sento, ho anche alzato tutto il volume, no, non si sente niente. Non lo senti perché non è l'antenna sul tetto, già è basso lui perché con un portatile, figurati, è normale che lo senti così, avanti Luca. Prego. Avanti. Ma non mi sentivate, stavo parlando, buf. A chi? Ho fatto i commenti delle canzoni e non vale sotto nessuno. Vabbè. Tu lo senti perché ce l'hai più vicino, è normale, no? Se tu lo sentivi dovevi entrare e dirlo tu. Io l'ho sentito se non pezzo, poi QRM me l'ha coperto. No, parlo di me che ho fatto il commento io delle canzoni ricche, non mi avete risposto. No, no, io non ti ho sentito, Robè, assolutamente. No, pensavo si dice da lupo grigio. Non ti ho sentito per niente io. Comunque la SIAE dice 70 anni dopo la morte dell'autore. E ce ne sono tante canzoni di 70 anni, basta durare Beniamino Gilli, Bianco Natale di Bing Crosby, che è la più famosa canzone del mondo, sono tutte canzoni che l'autore è morto più di 70 anni fa. Però se tu canti una canzone, io canto la canzone di Lucio Dalla, io, cantata da me, utilizzando la tastiera fatta da me, suonata da me, non ce l'hai copyright. No, ma se metti la base musicale, sì. Assolutamente sì, quello sono pienamente d'accordo. Però se tu canti Bianco Natale di Bing Crosby oppure l'inno italiano, che non ha più copyright, vabbè, non ne ha mai avuto copyright l'inno italiano, l'inno di Mameli, non so se avete ascoltato le parole di l'inno Mameli, io l'altro giorno le ascoltate sino alla fine della canzone, non me ero mai accorto delle parole. Noi conosciamo le prime strofe che dura un minuto, se le ascoltate sino alla fine ci sono delle cose allucinanti, cioè contro gli austriaci, contro i cosacchi, che siamo stati derisi, non so che cosa, era micidiale, non me l'aspettavo una cosa del genere. Beh, si conosce di solito quello che si canta, quello che si sente cantare si conosce, poi se c'è altra, se sono altre strofe e nessuno le mette in atto, non le conosciamo per questo. Comunque Robè, e tu che sei formato, cantacene una, io. Grazie dei fiori, grazie. Poi ci sono tutte le canzoni di Coso, di Caruso, di Beniamino Gilli, ce n'è gente che è morta 70 anni fa. Tu guardate tutti gli interpreti, dai vecchissimi, da Bing Crosby, che diciamo, Bing Crosby è la canzone più famosa al mondo in assoluto, Bianco Natale, che noi la traduciamo in italiano, però non mi ricordo come si dice in inglese, non me lo ricordo. Tutti i cantanti che sono morti da 70 anni in poi, tutte le canzoni che hanno fatto sono caduti, decaduti i diritti d'autore, almeno per l'Italia e i paesi che aderiscono a questa legge di copyright. Vediamo se lo sentiamo di nuovo a Lupo Grigio. Lupo Grigio, avanti! No, non si sente più. Robè, forse io stavo pensando che se si dice da lui, perché lui poi mi è scomparso alla fine, stava arrivando sempre più basso e non capivo le parole. Dal tetto arriva bene, ma al terrazzo, magoghi su freddo, poi non fa sul tetto, dai. Luca, comunque buonasera Robè. Avanti Luca. Sì, ciao Robè. Dall'Utturia che a te. Ciao Luca, che poco fa stava parlando, ci sei Lupo Grigio? Io l'ascoltavo Santiago 7-8, non benissimo, però riuscivo a tirarlo fuori, forse adesso è salito su, si è messo in una condizione migliore. Ma chi c'è? Avete detto Daniele per caso? Sì, Daniele. Ma Daniele è il solito Daniele? Non lo so se è il solito, io non me lo ricordo. Daniele, vabbè, cogliamo, non si può. Daniele, ci sei? Daniele, lo ascolta Roberto Quadrato, non risponde più, deve essere se n'è andato. Ma Daniele sta parlando di cosa? Soccorso? No. Ma là non lo conosco, no, pensavo, infatti poco fa dalla voce non mi sembrava lui. Daniele, come si chiama? Vabbè, diciamo, già ci siamo sentiti tante volte, perché lui abita giù via Rockefeller, vicino a Antonio Grode. Ok, richiamiamo un attimino a, come si chiama, Nicola Lupo Grigio, così è. Nicola, avanti, se ci sei batti un colpo. No, non c'è nessuno. Ti è rimasto, scusate, l'intromissione, stavo facendo roba, ho acceso un attimino, c'è Gianni, Luca, io, chi c'è poi di altri? C'era Daniele. Basta, mi sa. Poi è entrato anche Claudio. Vediamo un po' se Claudio è ancora qua. Claudio, ci sei? Ah, si è allontanato, dai. Era in campagna col Di Polo. Oh, tra l'altro stamattina quasi 9.40 arrivava a me Claudio, proprio probabilmente l'antenna di Polo era orientato su di me, vabbè che siamo, ci vediamo, le antenne da qua, io ho, non ho ostacoli, molte ore vedo le antenne pulite, arrivava la bomba, la radio era un po' distorta perché quando si è polarizzata orizzontale si diventa un po' cupa, però arrivava la bomba. Beh, Di Polo si è puntata direzionale, come una direttiva, si è puntato verso di te e così, è come se fosse sotto casa tua. Infatti gli stavo dicendo, siccome qua arrivano 9.60 a Claudio, ho detto ma qualche problema c'è, ero convinto fosse a casa sua, poi ho sentito la conversazione e ha spiegato che era da un'altra parte, ho detto cavolo, nessun segnale qua a Sassari arriva così forte, di tutti voi, di tutti quelli che ascolto, nessuno arriva. Boh, vabbè. È un Di volo poi particolare che ha fatto, di solito si fa con due braccia da 2,75, lui l'ha fatto solo con un braccio. Ha detto che ha solo un braccio da 2,75. E ha un 4 dondal. Ah, ma quindi non è manco 5 ottavi. Vabbè, lui di polo se si è orientato bene con la zona dove lavori, cioè, ma è molto rumoroso, io l'avevo fatto una volta. Sei poco rumoroso, non senti il QRM, però ti sposti dall'altra parte, bastano pochi gradi di elettoralità e perdi tutto, non ricevi più niente. Ma la direzione in cui è orientato lavora bene. Cava cava. Vabbè. Bisogna trovare il modo di modulare la campagna, non vuole mettere antenne, detto che ci ha messo questo dipolo da un albero all'altro. Guarda, caro collega, credo che non mette antenne a radio, conoscendo il tipo, dai, se sta ascoltando ci sta facendo due risate da parte mia qua. Ma lui non metterà tutta la serie di antenne, ma la carta è una già la buona. No, no, ha detto che non le vuole mettere per l'estetica o per tutto, anche perché ci abita altra gente lì e non vuole rovinare l'estetica della casa. E magari non la mette nella casa, la mette sopra l'albero, la camuffa, la buona in mezzo ai rami. No. Fate si rifatti così, fatti non è buono nell'albero. L'albero può mettere uno così posticciamente, ma lui se li fa i lavori li fa anche lui, no? Là. Lo usa come frangivento, ci mette un palo dritto dritto e poi si muove l'antenna sopra, dove fa, per dire, un frangivento, lo usa l'antenna, il palo dell'antenna lo usa come frangivento e fa spuntare solo il pezzettino dell'interesse. Vabbè, stiamo dicendo, ironia stiamo facendo, dai. Ok, ma Claudio non c'è comunque. Stiamo facendo i conti senza l'oste, KK. Luca! Corri, sono qua, se la riprenda, se la riprenda. Oh, yeah. Oggi siamo pochini e siamo in tre. Ma ieri mi sa che non c'eri tu. Ieri non c'ero stamattina, non c'ero. Perché sono andato a fare la spesa, ho preso la macchina e via. La macchina. Ah, ho capito, sei qua tu, no, sei qua tu. Luca, oh. Questa è la radio tua, no? Via. Questa è un'altra musica, ce ne sono poche, infatti è inconfondibile questa radio. Se gli animali non è il solito tuo, sei da un'altra parte sicuramente, però questa è la radio che dico io. E si comunque. Aspetta, forse c'è Nicola. Nicola, tu sei. Ah, scusa, allora c'è qualcun altro sotto. Aspetta, lasciamo un attimino di bianco, ho sentito uno basso sotto. Avanti, chi vuole entrare sul 10? Vabbè, c'è, si sente parlare ma non si capisce. Riprendi tu Nicola, dai, così con la buonasera. Roberto, da questa parte. Anni dalla morte dell'autore, stiamo attenti. Ok, c'è anche Luca e Gianni, doppio room, ti rilascio a Gianni che passa il mic a cosa, Luca. Ciao di nuovo Lupo Grigio, poco fa sei sparito piano piano, non ti sentivo più, basta un po' di QRM e ti copriva, ma stavi usando le batterie quelle da 1,2? Questo terremoto lui l'ha saputo di Porto Torre? No, la prima volta che sento, dove è successo? Ah, Luca stava dicendo che c'è stato un terremoto a Porto Torre, se al largo però, al largo della Sinara, lì dovrebbe essere successo. Ma questo quando è successo? Oggi. No, non ho sentito niente, ho sentito tempo fa, un mesetto fa più o meno, però a grande profondità è successo, ma non so a quante miglia di distanza ha portato. Di oggi non ho sentito niente, tra l'altro se è successo Mario era in condizioni molto limitate, come si chiama intensità, perché qua a Sassari siamo abbastanza vicini, l'avremmo dovuto sentire anche noi se fosse stato così forte. E se non è che buffa la vero lui? Sì, infatti la Sardegna è una terra antica, è molto stabile, centinaia di migliaia di anni fa, probabilmente di milioni, non migliaia, è successo qualcosa sulla crosta terrestre della Sardegna, però adesso ormai non se ne sente più, almeno come epicentro di Sardegna. Sì, ci sono questi sondaggi, i corattaggi fanno, buttano dell'aria complessa ad alta pressione nel sottosuolo per cercare giacimenti petroliferi, ma a largo della Sardegna a Porto Torres non ci credo assolutamente che li facciano, di lì passano dei cavi sottomarini, un sacco di cose delicate, diciamo, c'è il coso della Corsica, il cavo che porta la corrente alla Corsica, eccetera, per cui non credo proprio. E se mi parli da altre parti, dall'Adriatico, lì li fanno i sondaggi nel Mar Ionio, ma qua in Sardegna di queste cose ancora almeno si presume, ma che non si è scoperto qualche sottomarino nucleare, non sappiamo niente. Non lo so, ha parlato qualcuno sopra di me, io non mi sono accorto, vabbè, non potevo accorgermi. No, non ha parlato nessuno. Come ti arriva a te? Ti sta arrivando bene, Nicola? No, perché mi hanno sovramodulato, quindi mi hanno passato sopra, non mi hai sentito sotto quello che parlavo. Ok, va benissimo, non c'è problema, magari qualcuno se ne fa accorgersene. Avanti, dai, facciamo un attimino di bianco, qualche secondo, vediamo su 10 se vuole entrare qualcuno, se no riprende Gianni, doppio rumbo. Un attimino, e avanti, anche se ti sentiamo a voglia, dove sei Valt? Ciao Walter, ben sentito. Sì, ma si sente un rumore, tipo un rumore strano di metallico là dietro. Avvilo, meno male che ci abbiamo gli apparati, ci abbiamo questa passione, sennò sarebbe stato una pera stare in casa. È tipo una scarica ritmica, Walter, che c'hai dietro, fa brrr, una cosa del genere. No, mi sembra Torino, prova. E adesso l'ha rifatto. Sì. Lo senti tu, Robert? Sì, sembrerebbe una vedova, come ti sei probabilmente allontanato, si è ridotto, è proprio il classico rumore di vento, la che è risonata, magari ha qualche effetto di rientro, vabbè. Già ti comprendiamo comunque, Walter. E ecco, cos'è un ICOM questo? La modulazione sembra un ICOM. Ah no, sta andando bene. Santiago 9+5, qua la radio è buona, un pochettino, un po' cupa, però è chiarissima, va più che bene. Ok, c'è anche Nicola, lui è in condizioni un po' più disagiate. Vediamo Nicola se ascolti a Walter. Ha detto che non ti sente Nicola, tu probabilmente l'ascolti perché lui sta spingendo un po' di più del normale e purtroppo siete in condizioni disagiate sia lui che tu, perché a volte il cervello già si fa sentire e ascoltare soprattutto. Già... Dai, avanti, di nuovo avanti. Sì, ecco che ti ho ascoltato comunque, non c'è problema, ok. Walter è uno di quelli che ha una frequenza, vi ripeto, non so se lo conosci Nicola, uno che si fa ascoltare e sa anche sentire con le attrezzature che ha, no problem, poi i commenti li lasciamo ad altre situazioni. Dove sei Walter però, in che posizione sei? Ah ok, vabbè. Strano, 590 non l'avevo mai sentito con l'MC60, l'abbinamento qua. Ok, no, già ci segnale già forte. Tu come mi ascolti dalle tue parti? Sì, ok, non c'è problema. Ti rilancio a Gianni doppio rumbo, avanti. Sì, a me mi sentirà piccolino. Come mi ascolti a me, Walter? Mi ascolti a me in quella zona. Dove sei? A Macia? Cappagatto. Già va bene. Interessante farsi sentire. Stavo cambiato l'antenna, Walter. La Game Master adesso, non ce l'ho più la mantova. Sì, l'unica cosa è che i radiali me li buttavano giù le cornacchie, li ho fatti per due o tre volte, alla fine mi sono scocciato, quindi l'ho cambiato anche per quello. Anche io ce l'ho. C'ho la Diana 22. Sì, tu li vedi da giù. E ma la curraccia non li va di nuda, ormai non ho che usi quei fughetti a punta. Ma anche la mia è forte come carabina, poi è un bel pesante, è fatta, è massiccia, tutto al manico in legno, non è come quelle che fanno adesso, che sono tutti gatti in plastica, non mi piacciono quelle. La mia è da tanta, è di tanti anni fa, però è nuova, non c'ha un graffio, il manico lucido, lucido, lucido. Attacca le mine di baracchini, attacca qualche baracchino e via. Adesso sono un po' senza vederli, chissà quanto è aumentato. Sì, Walter, cioè, no, che non mi posso muovere i nocchi, se ti fermano è un casino, poi mi hanno operato la gamba, quindi sono un po' in convalescenza. E anche io per fare la spesa sono uscito stamattina, sono andato in banca, e mi sono ritirato qualche cosa per avere qualche soldo liquido in tasca, e basta, tutto lì. Ma è la prima volta che esco dopo due mesi che sono a casa, cioè un mese all'ospedale e un mese ho fatto a casa. E lo so, ma bisogna vedere anche se nell'aria questo virus, capito Walter? Non si sa dove ti becca, quello che c'è, anche se stai all'aria aperta che non sei a contatto con gli altri, magari c'è, è nell'aria e ti dice che già lo mattesci. Chissà cosa hanno combinato Walter. Io dall'inizio ho pensato sempre che gli fosse scappato qualcosa al laboratorio, ma è morto. Kappa, no, magari se lo vedo la fotografia non riesco a riconoscerlo, ma così dicendolo così non me lo ricordo. Non risparmia nessuno, no. Né ricchi, né poveri, né belli, né brutti. A chi tocca, tocca. È una questione di fortuna anche. Vabbè, devi usare le precauzioni, quello in ogni caso. Però è anche una questione di fortuna. E sai cos'è, Walter? Che se lo fa uno, lo fanno tutti in gruppo, poi è quello il problema. Esagerano, quindi è meglio che faccia la restrizione di modo che nessuno ci vada. Ma tanto lo sono tutti che rispettano. Ho visto quel tipo a Roma. L'hanno fermato perché l'hanno trovato facendo footing e gli ha detto che lui non riteneva giusta questa cosa qua e che non rispettava la legge, che non ne fregava nulla e che continuava a fare giochi, non era tutti nulla. Ma non è vista in Spagna che i dottori si stavano arrendendo, non volevano più continuare e la polizia, carabinieri, polizia, vigili del fuoco hanno attaccato le sirene per dargli l'input per continuare, perché volevano mollare tutto, si stavano proprio lasciando andare, non ce la facevano più. Esatto. No, c'è scritto proprio che praticamente i dottori stavano mollando, che non ce la facevano più, si erano arresi, addirittura c'era scritto. I dottori si sono arresi in Spagna e per dargli l'input sono andati polizia, vigili del fuoco, eccetera. Hanno attaccato le sirene, eccetera, eccetera, per dargli l'input per continuare. Ma ci manca solo quello che abbandonino i dottori, siamo fregati. Via, ciao Walter, mi piace sentirti come al solito. Ti rilancio se ti ascolta Nicola, ti mando un saluto, ti faccio la ponte io. Avanti Nicola. Ok, ti ha salutato Nicola, vabbè, dai, quando vuoi, anche io entravo da tanto tempo che non entravo, però con questo problemino che si è creato, problemone che sia, qualche spazio di tempo in più ce l'abbiamo, dai. Vieni quando vuoi, quando ci trovi, sarà un piacere ascoltarti. Ciao Walter. Ciao Walter, buona serata, dai, ci ha fatto piacere che ogni tanto qualche radioamatore si ricorda di noi. Sì, giovane. Eravamo giovani. Io ne ho 60, mi Walter, cosa ti credi sia giovane? Ciao Walter, ci sentiamo, avanti Roberto. Sì, ok, facciamo un attimino di bianco, due secondi, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno, se no riprende Mike e Nicola. C'è anche Luca. Questo va, si è allontanato Luca, vai Nicola. codice, diciamo, normalmente si parla in inglese, la lingua internazionale in inglese, però esiste anche un codice Q, dove ci sono delle informazioni, per dire, su, vuoi dire, dove ti trovi, QTH sarebbe l'abitazione, QRT che stai chiedendo, diciamo più o meno il codice che utilizziamo qua in coso, nella banda cittadina. Poi ti arrangi con l'inglese, dai, anche noi non sai che siamo grandi parlatori, però qualche comunicazione già si riesce a fare, sia in inglese che in spagnolo, almeno io qualcosina riesco a fare. Tedesco e francese è zero assoluto. Naturalmente poi ci sono le varianti di coso, linguisti, però QTEC gli dice lo stesso, ma già si riesce a capire, dai, per qualche parola, le parole fondamentali, almeno a livello scolastico qualcosa si riesce sempre a dire. Poi adesso con la musica, con tutta la gente, le interviste, molte parole riusciamo a impararle così, almeno più di quanto ce l'hanno insegnate a scuola. Sì, è più semplice da decifrare, chiunque poteva farlo, tre punti era il sistema più semplice di identificazione. La sfiga del Titanic è che quando è successo il Titanic le radio erano ancora a livello pionieristico, pochissime navi ce l'avevano, per cui era un po' più complicata. Vari ai giorni d'oggi, dal dopoguerra, dalla seconda guerra mondiale in poi, dagli anni 40 in poi, sicuramente ci sarebbero state molte più possibilità di salvare la gente, perché qualcuno non aveva la radio, c'erano le imbarcazioni vicine, però non avevano la radio, per cui non potevano intervenire. Sì, cioè, ho visto anche il film su Titanic, poi vabbè, Titanic che ci dicono tante cose che addirittura è stata fatta affondare apposta, tante cose, tanti complotti eccetera eccetera, vabbè, lasciamo perdere. Comunque la tecnologia di adesso, se tu prendi un ragazzino, io ho visto un programma alla televisione, non so se l'avete visto, quel programma si chiama Collegio, dove ci sono dei ragazzi dai 15 ai 17 anni, dai 14 ai 17 anni, li mettono in un collegio con le stesse regole, gli stessi abiti, gli stessi mangiare e tutto quanto. L'alimentazione aveva fatto degli anni 50, degli anni 60 e degli anni 70, li hanno divisi in tre gruppi di puntate, hanno fatto un gruppo, li tengono per 4-5 mesi, l'anno scolastico gli davano l'olio, come si chiama, per arricchirli, per mangiare, adesso non mi ricordo come si chiama quell'olio, vestiti tutti uguali eccetera eccetera, e gli permettevano una telefonata al mese. La prima volta che li hanno fatti telefonare, li hanno fatti entrare in questa sala del preside, della presidenza, e c'era un telefono a disco, il classico telefono che abbiamo sempre utilizzato. Tu devi vedere i ragazzini piangendo perché non sapevano come utilizzarlo, come si fa? Nessuno sapeva utilizzare il telefono. Thank you. verissimo, lo confermo al 100%. Purtroppo loro sono specialisti su computer, procedura di utilizzo di applicazioni del cellulare, di cose ci fanno 10 a 0, al contrario di quanto noi possiamo fare. Sono molto più intuitivi alla prima, però se rimetti una complicazione, cercare di fare un ragionamento, ragazzi di oggi si bloccano. Prendo la calcolatrice, confermo. Ok, neanche la calcolatrice, perché adesso lo fanno col cellulare e tutto, scrivono su internet e li dà direttamente l'informazione e fanno la domanda. Hello, ciao Google, quanto fa la radice quadrata di 527,31? Ok, vai Gianni, riprendi. Boh, Gianni forse si allontana. No, ma è così. Tu digli a costruire qualcosa, di mettersi a fare un po' di inventiva. Molti ragazzi si fermano di lì, non hanno, non che non hanno le capacità, non hanno l'interesse. Io ho due figli, una di 18 anni e l'altra di 23, adesso ne fa 23 anni, però alla prima complicazione si fermano. Però se vi dai in mano computer, cellulari, io me li guardo a bocca aperta, sono tutte le novità, tutte le cose, dico ma che cos'è, l'ho preso da non so che cosa, che cos'è, un'applicazione, sanno già tutto loro. Ce l'ho solo sul cellulare, non sapevo neanche se potesse mettere e basta. C'è una bella applicazione a te che ti sta ritornando la passione per il cellulare, CB Talk, non so se l'hai messo. Non c'è confronto, però a me mi è capitato di parlare con amici, un ex CB che siamo tanti anni che si è trasferito in Austria, ci siamo sentiti, a parte WhatsApp, Messenger eccetera eccetera, ci siamo sentiti via radio utilizzando il cellulare naturalmente con CB Talk, è stata una bella, una cosa interessante, è una tecnologia nuova, sicuramente sentire il microfono, schiacciare il tasto del microfono e vedere la lancetta che si muove del coso, della modulazione oppure del segnale che hai ricevuto in Santiago, è un'altra musica, niente da recepire. Vabbè, potresti fare anche col telefono la stessa cosa che hai fatto su CB Talk, se ti vuoi sentire con Salvatore basta che fai una telefonata, la stessa cosa. Sì, no, è stata un'occasione che abbiamo provato, noi stiamo parlando di un discorso generalizzato, la radio è sempre la radio, come dire, adesso sono tutti in digitale, però è così, non ti dà la stessa soddisfazione che ti cerchi il segnale, che c'è il QRM, in digitale o prendi o non prendi, non esiste la via di mezzo come la televisione digitale terrestre, o prendi o non prendi, prima invece riuscivi a agganciare, ti spostavi l'antenna, vedevi un po' di effetto, ecco l'abbiamo preso la prima televisione privata che usciva, abbiamo agganciato quello, adesso il segnale o c'è o non c'è, non esiste una via di mezzo, ci sono tanti parametri e tante situazioni per una trasmissione di un segnale digitale, così sta diventando la radio dei radioamatori, tutti stanno andando in digitale, piano piano scomparirà l'analogico, come le radio private adesso tra un po' quasi tutte saranno in digitale, con i vecchi ricevitori che abbiamo ce li buttiamo via in analogico, non prenderai più. Cioè se tu c'hai una radio a casa la butti via. Sì, no, assolutamente, anche le cassette. Adesso la Sony sta riproducendo le audiocassette, perché c'è gente che le richiede, e loro di disco non parliamo del vinile, io sono amante, ne ho migliaia di dischi, sono un grande appassionato di musica e di tutto quello che c'è intorno alla musica, dall'amplificatore alle casse, eccetera, eccetera. C'ho una bella, diciamo, qualcosina di discreto, dai, non è inutile vantarsi. Però ho sentito qualcuno che forse voleva entrare, un attimino, vediamo se c'è qualcuno avanti. Erano amplificatori Marantz, impiatti Technics. Io ho il 1200 di piatti, ho due piatti della 1200, della Technics sono le 1200, ho l'amplificatore in una sala della Marantz, di quelli vecchia generazione, quelli con la luce azzurra, e più c'è una sala dove ascolto con diversi criteri, dove c'è uno Yamaha e poi altre cose, ed è lì dove voglio ascoltare, che mi siedo, disinvolto, chiudo gli occhi e mi ascolto la musica, se voglio ascoltare altissima qualità. Poi per ascoltare normale, ma ho preso anche da poco una console per fare un po' di divertimento, Gianni, non so se te l'avevo detto, di quelle console che puoi manipolare, fai tu, ma non c'è gusto, è troppo facile, c'è col 1200 tutto, la velocità tra gli input, i tempi, fa tutto in automatico, sincronizzi, ti dà la forma d'onda, ti fa tutto in automatico, tu devi solo entrare a tempo e va. No, a me mi piacevano quelle col vinile, quelle erano belle, potevi giostrarci, fare. Io c'ho un impianto Panasonic, il piatto è Sony, però è un semi professionale, c'è la frizione, tutto quanto. Mi diverto a farlo partire, a far partire il disco, facendo girare il disco come fanno di gira. Niente, e mettere la musica, poi c'è musica anche di altri tempi. Io mi divertivo andare nei mercatini dell'usato e comprare tutti quei dischi che a me piacevano nei vecchi tempi. Ne ho trovato anche con il nylon ancora chiusi, nuovi long play. Ho trovato anche un 45 giri grande quanto il long play. Mort Be Alive, te la ricordi? Sì, Patrick Hernandez, sono i dischi mix, si chiamano 45 giri, io li la versione discoteca erano la versione 33 cm, però a 45 giri, ce ne, diciamo, ne hanno fatto tante, le versioni mix, c'era un'unica canzone, chiamavano dischi mix quelli, perché erano un po' più lunghi come durata, non ci stavano nella dimensione del 18 cm, del 45 giri, per cui, ma io di dischi ne ho un'invasione, perché ho preso un blocco di una radio privata, cioè i dischi quelli promo, dove sul 33 giri ci sono 10-12 canzoni, però di interpreti diversi, per cui io ci avrò 3.000-4.000 titoli. Sì, no, io così tanti no, ma ne ho diversi, c'ho ne ho tantissimi comunque, la discoteca specialmente, a me piaceva molto la musica discoteca, Video Killer, Radio Star, tutto quello lì c'ho, poi c'ho Twist, poi c'ho Lori Gomez, Don't Let Me Be Disunderstood. Sì, sì, già c'è. No, io guarda, fino agli anni 90, diciamo, della musica che ha circolato in Italia, non parliamo di cose rare, c'ho quasi tutto, diciamo, le musiche, almeno che hanno lanciato in radio, poi se mi dici un titolo strano, non è detto che ce l'abbia, però ne ho diverso, la musica, parliamo dagli anni 75-78, fino agli anni 90, c'ho buona parte della musica che è circolata in Italia. Poi ogni tanto mi prendo qualche disco che mi interessa, qualche LP, vado e in questi mercatini, come hai detto tu, c'ho degli amici, me li mettono da parte. Addirittura ultimamente ho comprato dei dischi in Sassarese, dei 45 giri di Ginetto Ruzzetta, che vai e trovali adesso, li ho trovati e me li sono presi. Io ho una pennina che ho fatto tutti quanti, ho fatto tutte le canzoni in Sassarese, Ginetto Ruzzetta, Toni del Drò, tutte quelle lì. Però a casa non le posso ascoltare, non piacciono a nessuno le canzoni sassarese a casa, devo essere solo per ascoltarle, roba, se no. Mamma mia, come siete mio figlio, mamma mia che brutte queste canzoni, toglile per favore, come fa a ascoltare questa musica? Non le apprezzano, capito? Ma io ho i dischi anni 80 per far ballare una serata in una discoteca, ti dico solo questo, però poi c'ho la donna Cannone, tutti quelli lì, di André, c'ho di America, c'ho proprio di America, c'è un concerto, ci sono tutte le canzoni più belle. Non so se riconosci in America, se te li ricordi. Diversi, ne ho diversi, guarda, ne ho tanti ma non come te. L'America era il mio gruppo preferito da giovane, adesso ascolto anche altro, però l'America ero fissato, il rock, diciamo country rock americano, no, mi sono sempre piaciuti l'America. E la più famosa è la Survivor dell'America, e non so se te la ricordi. Ok, facciamo un attimino anche a Nicola, così ci racconta anche lui cosa ascolta in particolare. Erano le valigette della Lesa, io adesso forse ne ho una alla parte, quella ancora, perché le ultime che hanno fatto erano quello, le davano la selezione, le vendevano quella specie di settimanale che davano in edicola, poi se volevi te lo ti abbonavi e te lo facevi mandare. E io ci avevo una vecchia di mio zio, me l'aveva lasciata, ci aveva due casse e potevi mettere una decina di dischi, perché c'aveva una specie di cilindro, mettevi i dischi 45 uno sopra l'altro e te li cambiava in automatico. E quello della Real Digere. Ci sono dei confronti da fare, diciamo, a livello di dinamica, distorsione, la musica digitale è superiore, però come caldo, suono caldo, diciamo corposo, se c'è un bel vinile lì da grande mattana. C'è qualcuno che ti stava parlando sotto o sopra, avanti chi parlava, ogni tanto entra qualcuno. Ok, no, vabbè, è sempre una questione di discorsi, come tra valvole e transistor, ci sono dei vantaggi da una parte e degli svantaggi dall'altra, però le valvole sono sempre le valvole, il vinile è sempre il vinile. Io come CD non ne ho moltissimi, ne ho abbastanza pochi, però di dischi ne ho tanti. Io ho cassette, dischi e anche vinile, ce ne ho tutti e tre. Cassette non ne parliamo, cosa faccio di cassette quando c'avevo la radio, c'avevo la non-stop e più c'ho anche le bobine, io c'ho il registratore a bobine. Io Robert registravo le cassette, vendeva la Sony delle cassette che erano fatte apposta per registrare i CD, e devi sentire queste cassette, non ti accorgi che è una cassetta. Quando tu ascolti la musica è proprio pulita, perfetta. Le cassette hanno una cosa che si rovinano, il nastro si rovina, devi poi muoverle e farle, perché a volte si bloccano, si fanno, con l'andare del tempo si rovinano, mentre invece il disco in vinile se lo sa tenere ti dura anni. Anche io li avevo trovati, quelli di una radio privata, e li avevo trovati, te lo ricordi, non so se tu l'hai mai conosciuto, il russo, quello che c'era alla fine di Via Rizza, proprio alla fine quasi arrivati con Via Enzo, c'era un negozio che vendeva strumenti, dischi. Figlio c'è di mio fratello, Enzo Russo si chiama, ci conosciamo da ragazzini, tutta la famiglia, anche la moglie, siamo amici da bambini, da ragazzini. Quello poi ha perso migliaia di dischi perché li aveva messi in un garage, poi c'è caduta acqua, ha rovinato tutto, sono in causa da anni. Lo so, perché me l'aveva detto, mi ha detto scendi giù, scenditeli, se te le trovi buoni, tutti quelli che trovi te li faccio a metà prezzo, cosa. Ma sono sceso giù, era un casino. No, proprio giù sotto il negozio, ma adesso non c'è più, peccato, perché mio nipote aveva comprato anche due piatti tecnici nuovi, poi se li ha rivenduti, che ha fatto 150 euro l'uno, l'ha venduto. Lo so, ma se ne pensiamo la mente, Enzo. Lui andava addirittura in Olanda, ad Amsterdam, col furgone, caricava la roba, perché lì trovava occasioni, ci sono dei grossi capannoni di roba vintage, le portava qua, si è fatto qualche soldino e poi alla fine ha mollato, hai fatto l'errore della vita tua. Vabbè, adesso oggi, facendolo adesso, non so se sia conveniente, ma lui si aveva fatto il nome, c'era un po' di gente, lavorava tanto, poi non si sa per quale motivo ha mollato. Adesso dico, ripeto, oggi non so se sarebbe durato, però quando ha chiuso lui, che stava almeno una quindicina d'anni fa, stava andando. E io vendeva strumentazione, batterie, chitarre elettriche, tutte queste cose qua. E io trovavo lì i dischi anche nel jukebox. Allora c'erano i jukebox, quindi c'erano i dischi con la copertina bianca, non so se tu ne hai, che magari erano le ultime canzoni uscite, capito? Quindi io trovavo le ultime canzoni, le pagavo di meno dei negozi, ed erano canzoni per i jukebox, quelli che mandano per i jukebox, che hanno la copertina bianca, che non c'è nessun titolo. Ne ho tantissimo, io ti ripeto, io ho preso un blocco di coso, di radio, da una radio di un amico di un paese, mi ha dato centinaia e centinaia, e poi ho preso questi qua, l'ex, come si chiama, uno zio della mia moglie, non ti faccio nome, ma lo conoscerai sicuramente, che era il numero uno sui jukebox, lui me ne ha regalato centinaia di questi. C'è un po' di freddino. Dai Nico, dai, ci sentiamo in situazioni migliori, dai, ciao, se c'è modo di provare laggiù, se no ci sentiamo al più presto. Ciao, buona serata. Ciao Nicola, dai, ci sentiamo. Buona serata, grazie per il questione. Quelle sono passioni davvero. Io, guarda, prima stavo sempre attaccato allo stereo. È stata mia moglie che non mi ha voluto far prendere una console, volevo mettere due piatti, insomma, ha detto che non eravamo una radio privata in casa. Io volevo farmi una specie di mobiletto con la console e farmi anche le registrazioni mixate da me, eccetera eccetera. Io ho avuto sempre la passione a fare queste cose, capito? Non lo so, anche io non dico più di te, ma penso quanto te. Io ho tante passioni, puro gruppo in agio, dalla radio alla musica, eccetera eccetera, colleziono di tutto, io colleziono e mi sono un po' calmato. E anche io adesso ho lasciato, io in casa c'avevo pesca subacquea, pesca con la canna, fotografia, tutte passioni un po' dispendiose, fotografia, baracchini, navi un po' di passione, di coso, e la musica però è sempre stata in primis. Tu pensa che io quando faccio lavori a casa e cose, per rilassarmi mi metto la musica e a me mi passa il tempo, manco me ne accorgo. Io la musica quando la voglio ascoltare, a me mi piace ascoltarla a livello di concerto, per cui c'è un'altra sala e quando sollevo di lì faccio, perché ho delle casse ad alta efficienza di qualità, pur per ascoltare così, per divertirmi, per mixare, fare del genere, ma io sto innescando qualcosa. No, sentivo tipo un fischietto, forse stavo, vabbè, là non ero io. E c'ho una stanza dove di lì mi metto i 1200 musica, per ascoltare e divertirti. Poi se voglio sentire, c'è una stanza enorme, un salone grande dedicato solo per ascoltare la musica, e lì quando alzo un pochettino, ma non è che alzo delle note alta potenza, intensità di suono, perché ho delle casse ad altissima efficienza, e mi aveva dato la mano a costruirle, come si chiama, Giovanni Dittiri mi aveva fatto il progetto del filtro, perché sono state modificate, io ho dato i componenti e lui mi ha dato delle dritte per cercare di rendere, ma c'hanno un suono da paura quando attacco, dandogli non tanta potenza. Io non sono mai arrivato più di metà, perché metà sfasci tutto, c'è gente che abita dietro di me, due palazzi più avanti, hanno trepato a mia sorella, ma c'è il concerto alla Torres e io con le finestre tutto chiuso, sigillato, se ne scende niente dalla casa. Ci credo, anch'io ho case che non posso alzare il volume perché la cristalliera, tutti i bicchieri vanno tutti in avanti quando vibra tutto, quando alzo il volume. sono Panasonic, sono una sottomarca della Pioneer, però sono case che hanno sia subwoofer che superwoofer. Immaginati, sono mi pare 300 watt o qualcosa del genere, vanno molto bene e sparano forte. In casa infatti non è che vadano bene più di tanto, anche perché io prima ce li avevo sopra il mobile le casse. Poi mia moglie le ha volute togliere, abbiamo fatto un ripiano in noce sempre con adibito alla sala e con le rotelline a scomparsa. Sotto non ci sono le ruote, però non si vedono, di modo che lì quando le vuole spostare per pulire le spostava, capito? E invece vabbè, adesso potrei anche appenderle al muro, fare qualsiasi cosa. Vibravano meno prima, adesso vibrano, me farò vibrare tutto il pavimento, chi si disotto, chissà cosa, che le maledizioni che mi mandano. E allora faccio subito un appunto, allora Panasonic che non è sottomarca di niente, Panasonic che è il gruppo giapponese più grande del mondo come produzione di prodotti di coso elettronici, il gruppo Matsushita. Tecnici, Panasonic e JVC sono tutto, fanno parte del gruppo Matsushita, del più grande gruppo di produzione di materiale elettronico di alta fedeltà di tutto il mondo. E Hitachi pure ha preso la cosa, National, Panasonic, Technics, National non esiste neanche più, sono tutto lo stesso gruppo. La Pioneer è neanche un decimo di quello che fattura la cosa, la Panasonic. Panasonic fa di tutto e di più. La Pioneer si è solo ristretto, ha fatto un periodo dei televisori, poi ha fatto più che altro roba di alta fedeltà, dagli autoradio agli amplificatori, le casse, eccetera eccetera. No, io sto parlando di casse già, se vedete le casse che ho, io ho due coppie di casse, quelle grosse che erano delle casse da discoteca della RCF, sono state sostituite, erano montate in una discoteca abbastanza conosciuta a Sassa, l'hanno smaltita, demolita diciamo la discoteca, io mi ho recuperato i case, diciamo tutto l'involucro, sono casse che hanno il woofer da 38 cm che peserà 15 kg solo il woofer, sono delle bestie enormi, e più mi ho preso questo inverno, queste erano un metro per un metro di grandezza, e più mi ho preso delle, mi è capitata l'occasione, quando le ho viste me ne sono scesi le braccia, sono casse alte un metro e 40, diciamo mi arrivano alle spalle, con tre gruppi di altoparlanti, ma sono delle bestie, se le vedi sono spettacolari. Solo che in casa deve essere disonorizzato, se no rompi le scatole con queste casse qua così grosse. Vabbè, la passione è la passione, roba, io ti capisco, perché anch'io per la musica sono andato sempre matto. Niente, io quando mi voglio rilassare mi ascolto gli America, che mi rilassano molto. Se poi voglio ascoltare musica tipo gli AC/DC, che mi piacciono molto, la musica rock duro, ascolto anche gli AC/DC, quelli mi facevano correre in macchina quando ero giovane. E poi niente, c'ho un po' di musica alla discoteca, quando voglio rilassarmi, ballare e fare, mi metto musica alla discoteca e qualche balletto me lo faccio, dai. Quando c'è qualche amica a casa me lo faccio qualche balletto. Andava, e vabbè, sono passioni che se uno non ce le ha non le capisce, però a me la musica è sempre piaciuta molto, mi ha fatto sempre molta compagnia e tutto. Io quando sono solo a casa attacco musica a tutto volume e mi riempie la serata. No, diciamo adesso, mi domani forse, che sono un po' che non lo faccio funzionare qualche settimana, domani mi divertirò, domani, però lo devo fare in orario tranquillo, dalle 11 in poi, che la gente domani cambia anche l'orario, ossia che mi chiamino i carabinieri, no, perché io ti ripeto ascolto ad alto volume, non potenza, nel senso non gli do tanti watt, perché il discorso uno è convinto gli dai 200-300 watt, no, non posso arrivare a quelle potenze lì, anche se posso, nel senso gli darai 10-15 watt, ma con 10-15 watt con quel tipo di casse è come gli daranno 200 con un coso, io con 5 watt tu non ci puoi stare vicino, cioè te ne butto in terra la casa. Guarda, io ho sentito le casse Bose, che c'è un amico mio che aveva delle casse bellissime, la moglie gli rompeva sempre le scatole perché era grande, doveva spostarle quando faceva pulizia eccetera eccetera, si ha preso le pose, dove sono qua case piccolissime, ma tu devi sentire questo suono, sono qua una bellezza, infatti quando le ha viste mia moglie ha detto prenditi quelle lì che fanno, prendono poco spazio e tutto. C'è un subwoofer con le casse appese al muro, ma tu devi sentire che suono, Roberto. Sì, sì, no, che suono direttamente. Però il discorso è questo, già. Se tu vuoi ascoltare l'alta fedeltà con casse piccole non ce la fai. Io ho, allora, hai visto il 1200 tutto in alluminio? La serie della 1200, io ho la Technis piccolina, tutta in alluminio come 1200, peseranno 12 kg con le casse. Proprio alluminio presso fuso, tutto qua. Però per ascoltare così va bene, ma se vuoi sentire certa cosa, che il basso che ti vibra lo stomaco, ci vuole un altoparlante grosso. Ti ripeto, io con la lancia e woofer da 38 cm e sono enormi, e con le altre che sono da 30 la differenza si nota. C'è un, quando senti il basso che ti vibra la pancia, che ti arriva il colpo della batteria e ti senti vibrare tutto quanto, con quelle piccole non ce la fai. Puoi avere le più belle casse del mondo, ma le piccole hanno dei limiti, perché il basso non può scendere, fisicamente è impossibile scendere a certe frequenze. Eh beh, certo che sì. Vabbè, comunque io, quello stereo che ho io addirittura legge 8 cd, capito? 8 cd legge, cosa che ne ho visto pochissimi che leggono tutti questi cd. Tu li metti 8 cd e uno dopo l'altro ti suonano senza che tu tocchi niente. Ti suonano uno dopo l'altro, se poi tu vuoi cambiare i brani li puoi cambiare col telecomando, però se tu passi al 2, puoi passare al 3, puoi passare, cioè, con l'8 cd, tira gli 8 cd. Adesso ero da molto tempo che non lo usavo, anni e anni, forse 5 anni, 6 anni che non lo usavo più, adesso ho ripreso a usarlo. Ci sto prendendo anche gusto adesso a mettere i dischi e cose, mi piace proprio. Poi c'è la luce che illumina il disco, il piatto che c'ho io, è bello, mi dà la soli, l'avevo pagato 350.000 lire da cosa? Da Graziano 33 quando era all'emiciclo, te lo ricordo. Sì, sì, Cineradio, la Puglia, me lo ricordo, no? Ho comprato tante cose, no, anche io, per dirti, allora io ho questi amici che hanno roba vintage e cose così, non so se sei andato mai alla Conad di Monserrato, lui a Natale apre quel mesetto di Natale, porta un po' di apparecchiature, gli ho dato qualcosa io, gli ho venduto roba, delle casse, delle Infinity, erano delle casse da paura, però non avevano l'efficienza di queste qui, un suono spettacolo, lui c'aveva le GBL, quando ha sentito quelle lì, gli ha messo, queste me le porto a casa mia, non le vendo. Io me le ho vendute perché sfiguravano confronto alle altre queste grosse che ho messo. Suono spettacolare, ti ripeto, un suono, se devi ascoltare musica classica o musica calma, sono eccezionali, gli acuti, vedi, equilibratissimo, però le mancava il basso di queste. E c'aveva un lettore CD della Sony, 100 CD, ce l'aveva di lì, detto questo, là lo vuoi, e me l'ha dato. 100 CD, ti ripeto, non l'ho mai fatto usare, una volta solo l'ho messo un CD per farlo vedere se funzionava, ci metti 100 CD, c'è una specie di coso grande, tipo quando metti nella lavastoviglie e piatti, una cosa del genere, gira e ti legge 100 CD. Ma è per macchina o proprio per casa? No, per casa, è una cosa enorme, ci devono fare 100 CD, ti ho detto, tu c'hai presente il cestello della lavastoviglie che gira dentro, quelle lavatrici industriali, tu ci metti tutti i CD intorno, ci sono i numeri 1, 2, 3, 4, sino a 100, addirittura ne ha fatto uno la Pioneer a 300 posti, questo è a 100 posti, e stai tutto il giorno mandando musica. Ma è per cose professionali oppure per case normali, per privati? Questo qui mi sembra una cosa più professionale che privata. Guarda, questi qui molte volte li usavano nelle stazioni radio, nei supermercati, negli aeroporti, dove c'erano, ma è una cosa commerciale, non so quanto costerebbe produrlo adesso, e l'hanno fatto sino agli anni 2000-2005, una cosa del genere, l'ha fatto la Sony, la Pioneer, la Panasonic, forse anche la Kenwood l'ha fatto, il più grosso di tutti era quella Pioneer, da 300 dischi era, è una cosa esagerata, però sono molto ingombrati, no, le vendevano normalmente a chi gli interessava, vedevo uno dovrebbe ascoltare tanta musica, si mette tutti i CD, c'è il telecomando, giri, quello CD numero 1, canzone numero 4, ti imposti il numero, anziché tenere tutti i furi CD, uno che dice non devo stare ogni volta a toglierli, te li lasci tutti dentro e te li legge tutti. Ma fammi capace, la Conad che c'è, che viene tutto, quella che c'è la fine via d'Italia, cosa c'è? Il negozio di Graziano 33 per caso? Graziano 33, perché ancora esiste? No, perché ho capito che mettevano roba in vendita, non lo so, pensavo che fosse lui. No, questo è un amico, questa è un'altra persona che lavorava in comune, e lui si prendeva un mese di ferie nel periodo natalizio, l'ha fatto per tanti anni, prima l'ha fatto anche qua nel centro commerciale Nulla e Sole, poi non ci stavano più perché stava diventando un po' di confusione e si è preso un angolino di lì dove ci sono quei negozi centro commerciale, diciamo, cioè, non parliamo dove c'è il coso, il supermercato della Conad, e di lì ci sono tutti quei negozietti con le vetrine, lui si è preso uno di quei locali lì tutti gli anni e vende dischi, macchine, lui è appassionato, grande conoscitore, appassionato di macchine, di modellini, è uno dei più grossi a Sassari, solo superiore a lui ce n'è un altro, ma lui ne ha migliaia e migliaia di pezzi e poi uno che ne sa un bel, li modifica, li smonta, li vernicia, li fa tutte le serigrafie, proprio fa dei bellissimi lavori, poi fa quelli di Orama, non so se li conosci, fa delle cose bellissime, in più è grande appassionato di musica lui, c'ha un sacco di cose e si mette amplificatori, ce ne ha della Marantz, della Kenwood, non Kenwood, scusa, Kenwood no, all'epoca non è che faceva niente di più, Pioneer, Itachi, casse GBL, Kef, cosa cavolo non c'aveva, un sacco di roba c'aveva. E io gli ho dato, lui mi aveva dato delle casse Sony che avevo, niente di granché, e mi aveva dato delle Pioneer grosse col woofer da 30, ce le ho ancora, quelle lì, le tengo dove faccio musica discoteca. In più, questo inverno gli avevo portato le Infinity, lui quando le ha viste si è spaventato. Io le ho date via solo perché quel tipo di musica non l'ascolto io. Lui si è detto no, queste me le porto a casa mia, e se le ha, doveva tenerle lì come dimostrazione, ha detto no, queste me le porto a casa. Non c'era confronto con le GBL sono casse di un certo livello. È capace, sì. Io ho un amico come te che ha passione per la roba antica, è andato a Cagliari da poco e ha trovato, lui sviluppa ancora le fotografie in bianco e nero, c'ha la camera oscura e ha trovato un attrezzo che si usa nella camera oscura che costa un sacco di soldi, e questo qua dice non sapeva, ma gli ha detto che cos'è questa cosa, facendo finta di nulla, no? E lui gli ha detto boh, non lo so nemmeno io, l'ho messo in vendita ma non so manco che cosa sia, è un timer che serve per lo sviluppo ecco me l'ha spiegato, è un timer che serve per lo sviluppo della pellicola, e praticamente costava una barca di soldi, non so quanto gli ha dato, 5 euro cavolo, dice che si è messo a saltare quando poi è andato su internet e costava un bel di soldi. Sì, già lo so, anche a me mi è capitata due anni fa un'occasione da mangiarsi nelle mani, l'ho presa al volo, ero a Olbia, al Portobello di Olbia. Comunque di chi piace il vintage, ogni ultima domenica del mese in Piazza d'Italia c'è la mostra dell'antiquariato di questo vintage, è la prima del mese all'emiciclo, c'ho tanti amici, io ci vado spesso, ho comprato tante cose eccetera eccetera. Io due anni fa, perché adesso sarebbero tre con quest'estate, c'era Olbia al Portobello nel centro commerciale Gallura, c'erano queste casse, appena le ho viste mi si sono illuminati gli occhi, delle casse Boston americane che poi ho visto cosa costavano all'epoca, negli anni 80 costavano 1.300.000 lire, le ho viste di lì, guardate, stavo guardando, ho detto cacchio, ho detto quanto costano queste qua, e questo mi ha fatto 50 euro le sto dando, però siccome mancava il woofer già si trovano, io so cosa costavano e che casse sono particolari, solo peccato che ci manchi, però guardi, io li posso offrire, li stavo dicendo, ne ero 30 euro così per battuta, arrivo 20 euro e te le porti via, aiuto, vabbè, peccato, facendo l'offeso, cacchio, mi ha dato delle casse, le ho messe su internet, io faccio parte di un gruppo nazionale dove ci sono questi appassionati, quando le hanno viste ha detto ma cacchio, le trovate, me le vendi, me le vendi, no, queste me le tengo. E poi il woofer l'hai trovato, Robert? Il woofer costa un po' di soldi, però già l'ho trovato, non li ho ancora presi, ma perché voglio mettere i suoi originali, costano un pochettino, dai. Ma li ho trovati, quando li posso trovare quando voglio, nel senso dagli Stati Uniti li devi fare arrivare, sono, tu cerca su internet, le Boston, le BR54, non mi ricordo che modello sono, 154, ma sono casse alte 1,20 m, mia torre, tu devi vedere come sono costruite queste casse, solo i grossover, i filtri ti mette la mano in testa. Quando li hanno visti gente, conoscitori di casse eccetera, hanno detto cavolo, il prezzo non glielo ho detto, gli ho detto no, lo fate quasi a regalo, e quello ne aveva la vergogna di dirmi 20 euro questo tipo, cioè. Perché vendono la roba e non sanno, non conoscono il valore, capito? È gente che non si informa, che vende così, capito? Lo so, ci sono le occasioni, ci sono in piazza, ci sono molta gente di male, adesso non lo fanno più con il coronavirus, non pensano mai che li voce, anche io andavo in piazza, c'è Leandro, quel mio amico che ci va sempre a questi mercatini, ci troviamo sempre lì, qua, sto un tempo senza vederlo, vado ai mercatini e lo becco sempre, perché lui va a beccarsi pezzi, addirittura ci ha preso un apparato che me lo deve far vedere, che però gli mancano i quarti, un apparato CB a Cagliari ha preso tutto quanto, mi ha detto il ferro pieno, proprio di quelli grossi, con lo smitter, l'attacco per il microfono, per l'antenna, un bel bello, dice che c'è l'antenna lunga lunga, però dice che non c'è i quarti, l'ha aperta e non c'è i quarti, ha detto tu quarti ne hai, io ce li avevo, li ho tutti regalati, non c'è neanche una via i quarti, ui, li ho tutti regalati e costavano, ma la GBC qualche cosa ci deve essere ancora, devi comprare quello di ricezione e quello di trasmissione per fare il canale, bisogna guardare, c'erano i numeri, prima c'era la tabella con i numeri che corrispondevano al canale. Aspetta, forse c'è di nuovo Nicola, ho sentito qualcuno parlando, chi era avanti? Chi c'è avanti che mi ha detto, boh, ogni tanto fa qualcuno, non si capisce, i quarti me li aveva date per un walkie talkie che c'avevo, tre canali, mi pare era un watt o due watt, adesso mi ricordo, ce l'ho ancora dentro la busta, nuovo in scatola, una scatola sua originale me l'aveva dato, insomma l'ha portato solo il canale 11, quello c'aveva tre canali, me l'aveva dato Giulio i quarti. E i quarti io ne avevo tanti, li ho regalati a una ragazza, a Samantha, non so se tu l'hai mai conosciuta forse, vabbè, ci uscivo insieme e cose, l'ho regalati a lì, l'ho regalato un bel po' che per farsi, ce l'aveva, c'era l'apparato, ma c'era un canale solo e per farcelo tutto gli ho regalato tutti i canali io. Aspetta, vabbè, che così chiudo, dai, che vado dall'altra parte, dentro, che c'è il mio vicino, ok, dai, ci sentiamo ragazzi, già però non è così, i quarti vanno abbinati, lo stesso canale c'ha, quello di ricezione e quello di trasmissione, due, a coppia, quello di ricezione e quello di trasmissione, ricezione e trasmissione, altrimenti non si funziona, io ce li avevo tutti accoppiati e siglati, li avevo dati a Gianni Capri 2, se chiedi a Gianni Capri 2 ne ha di quarti, ce li ha tutti nella scatoletta, nastrati col numero, canale 1, ricezione e trasmissione, canale 2, ricezione e trasmissione, capito? Ciao ragazzi, divertitevi, ci sentiamo domani, ciao. E io cosa ho detto qua? Ciao, ciao. Ho detto che c'è quello di trasmissione e quello di ricezione per ogni canale. Ciao, come sei? C'è la numerazione di canale, canale 11, 38, 206 per dire ricezione, e 38, 207 e trasmissione, un esempio. Lo so che è così, addirittura io toglievo un canale e mettevo l'altro perché c'avevo la parata a tre canali, andavo per dire sull'11, c'avevo i quarti pronti, c'eravamo aperti e lo cambiavo. Sì, io ce l'avevo portati, le giare, poi mi pare te l'avevo fatto anche vedere, quello della Midland che ho dato a Walter per collezione perché non ce l'aveva, che era 12 canali, con la manopolina 12 canali e praticamente ci avevo 24 quarti, capito? 24 quarti, perché erano in coppia, capito? Vabbè dai, sono sempre in campagna Roberto, adesso però chiudo perché c'è gente, ci sentiamo domani, ciao. Ciao Claudio, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao Claudio, ciao ciao Claudio. Riprendi Roberto, devo andare a farmi le parinacche, mamma mia, me ne sono dimenticato di portarmela qui oggi, devo andare dentro a prenderla. Sì, stavo dicendo, il quarto a me mi aveva dato Giulio anche i canali alfa, te ricordi già? Sì, c'era l'11 alfa, che di solito entravamo tutti lì sull'11 alfa, quando ti rompevano le scatole non erano tutti che ce l'avevano, se mettevano la portata ci mettevano tutti nell'11 alfa, quelli che ce l'avevano e magari l'altro ci sentiva ma non riusciva a entrare. Sì, ok, dai, Franco, lo devi fare, io forse adesso vado a ordinarmi la pizza perché sennò dopo ce la tardi non me ne arrecani. vediamo se c'è qualcuno sul 10, se ci sei dopo ci sentiamo già. No, adesso io chiudo, vi faccio l'iniezione, poi non so che ore siano, ma suppongo che sia tardi già, non lo so. Sono le 7.25, là. Fra poco vado a fare la cena, là. E così mi faccio anche un dolcino per domani. Andate, dai, ci sentiamo Robè, mi ha fatto piacere conversare di queste cose perché anch'io ho le stesse passioni. Sì, ok, anche da parte mia, ok. Buon tutto, dai Gianni, io tengo qua acceso se c'è qualcuno e poi se no troppo spengo anche io. Dai. Ciao ciao, buon proseguo di giornata. Ciao ciao Robè. Avanti se c'è qualcuno su 10. Sì, ciao Gianni, Fabrizio. Oh, ciao Fabri, come va? Bene Gianni, bene. Provando un baracchino che sto riparando. Che baracchino è? Una International, un Viking B. Ah, sta uscendo. No, aveva problemi con la parte BF, non usciva di audio. Ha esploso l'integrato. Non sa che il mio, l'altro giorno non usciva di radio. Praticamente l'ho aperto, l'ho dato la spruzzata di spray per contatti, si è rimesso sotto il coperchio e è ripartito. Cosa può essere? Sì, qualche falso contatto, bisognerebbe, ma niente di particolare già. È ripartito, adesso sto uscendo col microfono normale, perché ho paura che quel microfono amplificato faccia casino alla parte del modulatore. Ma è quella che avevo riparato io? Eia. Sul modulatore avevo lavorato. C'hanno sempre quel difetto di modulazione. No, ma adesso si è ripresa bene, esce bene di radio e tutto. Meglio così. Ma chi c'è? Anche Roberto? Roberto mi sa che ha fatto quel retissimo, non so se ci sia ancora. Roberto ci sei? Io ci sono, ciao Fabri, tutto bene. Sì, tutto bene già, sempre qua riparando apparecchi. Però per servizio Fabri. Mi ne ho un po' aperti qua, un po' lì, un po' fuori, due o tre li ho riparati ieri. E beh, ragazzi, ti conviene abbandonare il lavoro, andate nell'aspettativa e ti metti, visto che adesso è tutto chiuso, non ci sta andando a lavorare Fabri. Sì che sto lavorando, sì. Ah, pensavo di no. Cioè dice facevi online, riparazioni online. No. Fabrizio ha le mani d'oro e poi l'apparato lo prende stamattina e il giorno dopo te lo consegno. Il lavorato allo Biancone ne ha preso, ok. Sì, questo qua è di un collega che lo stava usando, poi gli ho riparato già una volta, ma mancava altoparlante dentro, è roba varia, e adesso gli è esploso nuovamente sicuramente toccando PA, tra, deve aver fatto qualche corto, adesso gli ho cambiato anche i cavi di alimentazione. Io lo so, già sei un grande su questo tipo di cose, poi piano piano, più lavori e più ti fai esperienza. Ma poi, vabbè, questo già sono baracchinetti, già si fa veloce, il problema sono le radio HF. Non so, quando ci sono tante schede, lì devi seguire tutta una logica di funzionamento, perché magari non funziona una perché l'altra non li sta dando qui con la tensione o quei valori di coso, per cui ci vuole anche il ragionamento oltre che capacità di coso, di sostituire il componente. Sì, va bene, dai, vi saluto, così io finisco di chiudere questo apparecchio che poi devo riparare un 756 America. Sì, dai, ci sentiamo Fabrizio, adesso c'è un po' più di spazio, qua abbiamo più di tempo libero, per cui qualcuno in più, io il 27 no, nel senso solo il 27 non da tanto che non entravo, però in questi giorni mi sto di nuovo riavvicinando, visto che siamo un po' chiusi in casa. C'era Walter dei tuoi colleghi di altri settori, per cui quando vuoi entra, siamo sempre qua. Eia, volentieri, dai, che così stacco un po' di fili e riattacco il 440. Kappa, ciao Fabrizio, dai, buon proseguimento di serata, ci sentiamo, ha fatto piacere, dai, che ogni tanto qualcuno dei radioamatori bussa. Ogni tanto ci vuole, ma vi ascolto sempre. Mi, Robè, un inglese, vai. Aspetta, se ti può parlare, ma in italiano o in inglese? Attenzione, canale 10, chi vuole entrare? Attention, my friend, era inglese. Mi sembrava la voce di Sarda, dall'accento. Io. Buonasera. Ciao, Marcello. Ciao, Robè, è la giornata da Fottia, già. Bri. Stardo. Ma tu allora. Ma scusa, ma è abbassato, cosa hai fatto per bisogna abbassare il segnale così. Passate un attimo. Per il proprio basso basso, sì. Sì. Ma hai parlato inglese? Sì, perché ho bevuto qualche bicchiere di vino in più, capi? Quando bevi parli tutte le lingue già. Cazzo, questo qui parlava in inglese, mi sembrava proprio inglese questo che ho sentito io. Poi se sei andato tu non lo so, ma questo qui era inglese, io mi sembrava proprio una persona che parlava l'inglese. Così era. Gava gava, rifallo, aiuto. No, era con una tele radio poi. Oh yeah. A buono duio. Comunque vabbè, con la buona sera a tutti, io sono entrato così, fare una chiacchierata, ho sentito voi, adesso l'ho entrato. Dai, io mi sto allontanando, mi devo fare l'iniezione, vabbè. Se ti vuoi trattenere tu, io non lo so, io mi sto allontanando almeno per una decina di minuti che devo farmi l'iniezione dell'opparina, se no mi si coagula il sangue e buonanotte. A me mi pareva nuorese, infatti a Vera Alice la voce mi sembrava nuorese. Ciao già, buona puntura allora, dai. Ok, ci sentiamo. C'era, tu non hai conosciuto, non so Massimiliano, quello Salvatore si chiamava, adesso un radioamatore, quando entrava nel CB si faceva chiamare Agospino o Luca, faceva esempio il risate, si mettevano a parlare tipo come parlano i tussici, tipo Pino le Anticurpi, ma era un piscio, una risata, lui entrava così senza motivo, ma lo devi sentire, quella era una risata. C'era 50 ride, spiccio le neanche. Stiamo parlando di Salvatore, quello che abitava vicino a Gigi. No, quello è maestrale, no, la maestrale è un'altra cosa. No, questo è radioamatore. No, non l'ho conosciuto. Mica era robusto che c'aveva la moto grossa, c'aveva un Kawasaki. Ecco, la zona mia abitava o che cosa? No, non lo so dove abitava, però era un bel bravo parlando di lingue. Io una volta l'ho sentito a casa di Natalino, stava facendo di ex, era un mostro, parlando l'inglese, ha parlato con un bel DJ. Ma che cosa? Là, c'era mio cugino quello, vabbè che adesso è morto da un po' di anni, non so se te lo ricordi, o forse Gianni, anche Roberto forse sicuramente, a Nino Cobra. Chi? Nino Cobra, la guardia giurata. Nino di San Giovanni. Quello è mio cugino. Io conosco sia Nino Gattone. Nino addirittura era da noi al Cison. Si drumia e russava. Se si metteva nella sedia, si drumia. Ma si buona russa in servizio. No, gente brava. Nino, Tore, Emanuele, Angela. Allora tu guarda l'antenna del Ciso in via Pirandello, l'ha piazzata lui, l'ha piazzata Nino. Io non so, era bravo. Tu non me l'hai conosciuto? No, ce l'ho preso, ma di quanti anni fa stai parlando? Almeno 30. No, vabbè, io sono recente, io dal 2004 che sono entrato qua, gli altri non... Io no, bici, nel senso CB che erano CB di vecchia data, li ho conosciuto, però io parlare fisicamente io no. Erano due fratelli, Nino e Tore, forse tu non li hai conosciuti, modulavano tutti e due, ma Nino di più. Nino ce l'aveva anche in macchina. Lo sai che Tore l'anno scorso mi voleva vendere proprio la radio di Coso, ma ci ho fatto male a non prenderla, di Nino. Aveva un Cristal, ma bello, 120 canali, nuovo. Già lo so, Nino ci va bene, me lo ricordo, ma... Ti sto dicendo, lo conoscevo, ma non bene, non di più. Benissimo lo conoscevo. Veniva... Cioè praticamente faceva servizio quando c'ero io al Ciso. Poi lo conoscevo da prima, E adesso è morto da un bel po' di anni, no? Di tumore la morte, mi pare, no? Ehi. Gianni, ehi? Vieni vicino al Ciso, non c'era anche quello Mario Mao. Mario Mao era latte dolce, sì, era non proprio vicino, in linea d'aria, sì. Era latte dolce. Di fronte... Mario Mao era di fronte alla... Cos'è il COP quella che c'è di Alatedo, se sia la COP? Ma c'è la Graia, di fronte alla Graia. No, dove, di fronte alla COP era. Scusa, non è quello dove c'è la Graia, i giardini? No. Sto sbagliando. Abita vicino a Gian Maria, abitava. E è morto? Sì, è morto, Scusa un attimo, è che è quell'antenna? Radiamatore, no? Aspetta, perché parlate in due, cosa già? Io io l'ho anche visto morto, sono andato a vederlo, siamo andati a Natalino. Gianni? Scusa un attimino, Mario Mano non è quello che c'ha le antenne di fronte alla gradia, diciamo dove c'era il tecnico femminile una volta. Quello lì è Passero, è morto anche quello, Passero, quello, Passero. Ah, scusa, scusa, sto confondendo, posso avere il radioamatore, non Mario Mano, sto confondendo. K, adesso ci siamo, va. E tutta l'attrezzatura, quello c'era belle cose, che hanno... Boh, non lo so, chi se l'ha presa, l'attrezzatura sua. Però, quello lì è Passero, quello lì Mario Mano rimane di fronte alla coppa, rimane di fronte alla coppa. No, beh, ultimamente era in quella casa di riposo che c'è in Porta Sant'Antonio, dai, dove c'era l'hotel, cos'è l'hotel Grazia, cos'è l'hotel Grazia d'Areta, mi pare che fu Giulio Hotel. Era lì, è morto lì. Io sono andato con Natalino a vederlo quando è morto e subito la sfida mi ha riconosciuto il figlio. Ha detto tu sei Gianni di Piorun, dalla voce ti sto riconoscendo. Sì. No, Mario Mano io non l'ho conosciuto, di nome sono in radio qua. Aspetta, c'è qualcuno sotto che sta chiamando, avanti chi chiama? Sente un segnalino anche abbastanza forte. Ok, riprendi Massimiliano. Beh, lasciatemi andare, c'è che si appunto non me l'ha avuto. Telefoni da burro, non l'ha venuta. Sai invece che mi ha chiesto l'amicizia l'altro giorno già, i figli di Giampaolo Silvestro Igno. E non so se sono più entrati in radio, se te lo ricordi Giampaolo Silvestro? A voglia, eravamo amici. Giampaolo Silvestro l'ho visto anche a lui, l'ho visto morto, poveraccio. Aspetta che c'è uno che sta chiamando, avanti chi è? Attention please, do you copy Italy? Vediamo un po', Michele. Scusate un attimo, Roma. Michele, mi senti? C'è questo qua sta chiamando. Sì, attention please, questo è... Ti ha risposto, mio Roma. Sì, aspettate un attimino di bianco. Attention, my friend, do you copy Italy, nord Sardinia? Questo è il nome, please. Roma. Sta parlando Luca, dimmi Luca. Ah, aspetta, dopo una chiamata. Michele, mi senti? 1, 2, 3, pronto. Mi senti, Michele? Avevo ragione io che c'era un inglese. Non mi sembra inglese, ho capito Serbia io per te. Antonio Grode. Io ho capito Grecia invece. Sì che c'è Michele in ascolto. Dove è Michele? Vediamo un po', Michele mi senti? Michele con Michele lui. Ah ok, dai, mi senti in basso, va bene, dai, lo fa lui. Michele Pulverone, Massimiliano, ciao. Ciao, salutamelo, io non lo sento qua, non arrivo. Sì, siamo a casa adesso. Sono a casa, roba. Dove è? Troppo c'è freddo, un bel freddo. Ciao a tutti. Sì. Ciao, ciao, Cla. Avanti, Lu. Dove stai vicino a me? Lu, ma la giura ci fa vedere. Perché? Chi ti tengo fa vedere la giura? No, ho detto, c'ho fatto in mezzo, da Patrizio. Ah, boh, c'è un'ora fa vedere la giura. Non arriva nessuno qua, con chi stai parlando? Ah, non sto parlando, è in ascolto. Questo sono che poteva trasmettere. Devo andare ci di buco sempre. Va bene. Buonasera anche a lui. Cosa sta dicendo Roberto? No, ma sono accorto da un poco del coso, del Mike, punk, è il segnale, ha detto qua è arrivato, perché è fatto veloce arrivare qua. Io sei voi la campagna qua, mi voglio assai. Adesso lasciamo un attimino di bianco, vediamo questo signore che sta parlando, che non ho capito, ha detto il nominativo, però non avete parlato sopra. Attention please, do you copy Italy? Quanto è stato che sono le 8:20 e ho chiuso alle 7, quindi. Aspetta, vado a ordinarmi la pizza, dai, poi rientro subito, dai, ci sentiamo tra qualche minuto. Sì, a mangiare, andate. Sono già l'ora di parmigiani. Dovrei mangiare, Massimiliano, eh? No, io sono salito adesso col cane. Proprio ho fatto un... Nel coso lì, ho ritirato. E adesso siamo a casa. Io, cappa, andate bene. Con lui, mi devi mandare la foto di quei trim, Marco Baracato, vero? Massimiliano. Fammi memoria perché io in questo periodo c'ho un po' la mente corta. Trimmer de che? No, a Luca stavo dicendo. Ecco, lui mi doveva mandare la foto di due trimmer e invece non me l'ha mandata. Vabbè, sicuramente stava facendo altro, vai. Ah, boh, non lo so. Non lo saccio. Ok, e me buona era la colatella. Era buona sia la colatella che l'agnello, qua. Ti ecco che mi è uscito veramente squisito. Adesso questa notte ce lo scaldiamo, domani accendo il fuoco, tiriamo la rufida e tanto per cambiare, in campagna queste cose le puoi fare, qua, capito? Mi ha chiamato poco fa Sandro, che sta montando la manto, va giù in campagna dalla mamma, e gli serviva la misura del mollone, no? Mollone della centrale, la misura standard è 7 cm, già lo sai, però può andare a 6,5, può andare a 7,2, capito? Può andare a 6,8, dipende, dipende. E infatti gli ho detto, no, scovola tutta bella pulita e cosa, gli ho detto, e visto che vai tutti i giorni, ripiazzatela, il radio già ce li hai. E quando adesso questo periodo, tanto sia mattina che pomeriggio, c'è sempre gente, quindi ci può fare quella chiacchierata, no? No, in poche parole ha rotto l'ultimo pezzettino dove c'è, sai, quel ragnetto di plastica che mettono, per non, cosa sarà, quei 2 centimetri, ma penso che non le faccia niente comunque. Non le fa niente, nel caso a 7 centimetri c'è stazionarie, per quei 2 centimetri abbassa lui di 2 centimetri, la mette a 6,8, 6,5 e prova, capito? Non le fa niente. Assolutamente, e io l'avevo eliminato quel pezzettino, gli ho messo il tappo di sughero col silicone, non serve a nulla che si è cambiata, che hanno fatto. Aspetta Massimiliano, ma tutta quella roba in quattro, in quanti eravate? Tu, Gaia, Daniela e Teodoro. E io, mio padre c'era, ma noi abbiamo mangiato tutto, ignoriamo. Tu, Gaia, con la coratella, ecco, sono giù, siamo ancora terra, tocca, e poco le piace? Anche a me le piace un bel... Anche noi, te l'ho detto, ero in campagna a pranzo e siamo rientrati poco fa, mezz'ora fa, e quindi anche noi abbiamo mangiato roba rossa. Però c'è un bel freddo, c'è un bel freddo, ma un bel me, un bel io, mi sono sceso dalla macchina e ho mollato un attimo a Filippo qua giù per fumare una sigaretta, il gatto agita io, un fruscio, ma sono salito perché c'è un freddo cane fuori. Sì, non è che c'è questo grande freddo, va, è che c'è un po' di umidità più che altro, non è molto fredda la giornata, perché oggi ha fatto anche una bella giornata, confronto a quella di ieri, volevo salire a farmi quel lavoretto sul tetto, ma è un casino, se non asciugano bene le tegole è un macello. E tanto ne voglio staccare quella vato, va da lì, capito? La voglio mettere dall'altra parte in modo che posso abbassarla, clare, arrivare al tetto mia e lavorarci come dico io. Se no tanto va a finire che quella fascetta rimane così. Massimiliano, lavorare al tetto d'uomo è... Guarda, io te l'ho detto. Pensavo che non scendesse, che ci voleva la gente a muoverla. Invece come ha mollato l'aggancio... le direttive sono scese piano piano, le ho fatte scendere, adesso è al tetto all'uomo, sono stretto tutto il rotore, ho fatto un po' di manutenzione eccetera, e ho smontato da solo, te l'ho detto, da solo ho smontato la 3 elementi, mi ha dato un po' di fastidio a sfilare il boom, però ho allargato i cavallotti, l'ho sfilato e poi ho tolto il piatto col cavallotto, ho conservato tutto, la 3 elementi l'ho tolta, adesso ho lasciato la 5 elementi per i 6 metri e poi sotto la 5 elementi adesso ci aggancio il dipolo degli 80 e così ho 15, 20, 40 e 80 e 6 metri, tutto è sufficiente, le bande che piacciono a me, va benissimo, alla grande, stamattina ero i 40 metri lo stesso, con quello piccolino che ti ho detto al telefono, stavo viaggiando con quello, e viaggia anche quello lì, viaggiano tutte le radio, perché la 3 elementi la stava distruggendo il vento, allora prima di fascia, e qualcuno diceva non faceva niente, con un traliccio di 40 metri, voglio vedere se non mi va venuto. L'ho tolta e adesso appena posso uscire la devo portare a casa di Andrea. Va bene, va bene, che c'è rimasto qua? Tanto è più lisciù. Mi pare che siamo rimasti di più e basta, perché mi sembra che Gianni sta andando a farsi la puntura. C'è la Lucca, non so dove sia, ma credo che comunque sia dalla 25. E poi c'era Roberto che è andato a ordinarsi la pizza e ha detto già rientrava. Aia, positivo a Cappadocero. Va bene, va bene. Va bene, no, mio, c'ho ancora... Grazie. 15, 20 e 40, quello lì che mi aveva fatto automatico. Quello adesso l'ho sollevato, un bel, perché prima non lo potevo sollevare, perché quando girava la direttiva il braccio, il riflettore toccava. Un giorno per poco mi stava, si è agganciato per poco, mi stracciava la bobina. Adesso che non c'è più la 3D20, l'ho sollevato di altre, un altro paio di metri. Adesso lo sollevo di 6 metri, lo faccio salire in alto, all'impicco. Ma ha migliorato di ricezione, non sai come, ha guadagnato minimo 10-15 dB. E ma poi mi sembra che quel dipolo lì lavorava sempre bene, no? Mi sembra aver capito. Eri sempre molto contento di quel dipolo. Senti, come l'ha regalato Marco, Marco Scorpio, una canonata, quello lui ce l'ha da un po' incellato, lui ce l'ha fatto una domanda, e a me mi ha dato quello lì, che fa 15, 20 e 40, ma è una zaetta, tanto funziona bene. Adesso a quello, siccome è fatto a occhielli, non è a balo, ho già preparato gli occhielli in quello degli 80, lo metto assieme a quello e diventa quel di polo, 15, 20, 40 e 80, perché c'ha i bracci anche per gli 80 metri, con un'unica calata. E vedi, è buono, c'hai tutte le bande. Ma nei 6 metri c'è qualcosa? Poca roba, c'era un po' di propagazione stamattina, qualche chiamata, ho sentito a 50-110, poi mi sono spostato a 50-250, c'era un QSO 2 di fuori, ma non sono mai entrato. Con la direttiva ho mosso, perché la direttiva è puntata a nord, non l'ho manco girata per vedere dove erano. Ho visto che i segnali erano 4-5, quindi sicuramente la stavo prendendo di riflesso. Ma c'è qualcosa, d'estate, quando si apre la propagazione, si mette, è bello parlare. Però è da tanto tempo che non c'è molta attività. Propagazione molto molto scarsa, Massimiliano. Vabbè, io quando è? Stamattina presto, stavo ascoltando un po', in 40 metri c'era qualcosa. Ma presto, nel senso, alle 7 di Manzano, c'era un bel QSO. E va bene così, va bene. Ho fatto la ricarica a quello là, quello qua. Solo che non me lo può mandare perché adesso è chiuso. Adesso vediamo il 3 quando riapre. E così rimettiamo in funzione quello. Volevo sentire a Grocca se mi dà questa di un'antenna, così uno me la metto a posto e gliel'aggancio. Sono aggiunto la mia voce a commutare, fare, capito? E invece voglio mettere un'altra antenna a fianco alla mantova. E una me la tengo alla mantova, me la posso anche lasciare agganciata qua e con l'altra mi faccio questo normale, là. Posso ascoltare da una parte all'altra, mi capisci? Sì, sì. No, mi 40 è ancora pieno di gente. No, beh, segnali altissimi. No, questo è il 40 metri, ma è pieno, eh. È pieno, sì, che abbasso. Sì, ma io ho tolto anche la 3 elementi, la monobanda dei 10 metri, le due V e U, io ce l'avevo tra l'altro a posizione verticale. Ho tolto tutte le direttive, sto togliendo tutte, lascio solo quella dei 6 metri, basta. Solo la 5 elementi lascio, gli altri le ho tolte tutte. E al posto della monobanda 3 elementi per i 10 metri ho messo un'altra verticale V e U, capito? Infatti io ho tutte le radio separate adesso. Tutte le radio separate, anche il V e U. Posso ascoltare da una parte e c'è dall'altra, con diverse frequenze, non disturba niente, nulla. Tutto. E lavoro con le filari, c'è un controsenso avere grandi antenne da quassù. Con le filari poi voglio 50 metri del razzo, non ho problemi di agganci e niente, Massimiliano. E dorme tranquillo, che fa una stava distruggendo. Se ne ha rotto il cavallotto con l'aggancio in PVC ed è caduto da solo il direttore, perché c'è direttore, radiatore e riflettore. Ma buttata a terra, fortunatamente non si è rotto né bobina né niente, è caduto dal terrazzo, ho già visto cuscino, ho già smontato tutto. Adesso è 2 metri più bassa, però non c'entra niente. Mi arrivo all'istano, parlo con l'istano in diretta, 5.25, quindi mi va benissimo, i punti mi arrivano tutti a fondo scala, compreso anche quello in U, quindi non me ne ho fatti nulla, lascio stare così, non la sollevo più. Va bene, così come hai detto tu lavoro se c'è qualche manutenzione da fare arrivo benissimo al rotore, sganciare, fare. Alla 5.20 non ci arrivo, devo mettere la scala, ma non me ne ha fatti nulla, lascio stare così, stata una nuova quarantena. Sì, ma poi vabbè, quella lì, ma il rotore della grande l'hai tolto? No, il rotore del ho tolto solo a tre elementi. A tre elementi era un diciamo 50 cm più alta del rotore. Quando l'ho abbassata ci sono arrivato bene e l'ho smontata, non c'è più. Se tu passi c'è solo la verticale con la 5 elementi per i sementi, il rotore, il sistema è tutto montato. Ho solo sganciato la cosa, la 3 elementi. E va bene, il rotore cosa mi fai, scusa? Se non devi far girare più nulla, bocca mio. Tanto non ti lascio alla intemperie. La 5 elementi con l'uccello la giro. Ma perché non ne avevi due di cose di rotore? O una sola? No, l'altro rotore era sulla 3 elementi monobanda a parte, in punta c'era la verticale piccolina. Adesso ho tolto tutto quel sistema piccolo e ho lasciato la verticale VU anche lì, capito? Però la 5 elementi la devo far girare, cazzo, se c'è propagazione in semente cosa la giro a mano? No, pensavo che avevi un rotore a parte su quella, capito? Ecco perché te l'ho detto. Pensavo che il rotore, diciamo, per far girare tre elementi era separato di tutto qua. No, il sistema quello è unico, è il sistema unico, tutto il tradicetto, il sistema, io lo chiamo, c'è il rotore, sopra il rotore c'era la 3 elementi a distanza di un metro, poi c'è la 5 elementi per i 6 metri e sopra in punta c'è la 510 bibanda della Daimo, capito? Quindi praticamente adesso c'è il vuoto in mezzo tra il rotore e la 5 elementi, capito? E non metto niente lì, potrei mettere anche per dire quella VHF, io faccio attività in VHF, molta polarizzazione verticale e la faccio girare lo stesso, capito? Ma non ne metto, non me ne affutti nulla, non mi interessa, lavoro benissimo così e dormo tranquillo e sereno. Una volta che c'hai tutto quello che ti serve, cosa te ne affutti? Poi a quell'altezza lì si stacca un radiale, cade su una macchina, cade su una persona, sono dolore mio. Quindi se pure a quell'altezza come sei tu è tutto libero, sei perfetto, capito? Non c'è nessun ostacolo e né nulla. E va bene lo stesso, tanto non hai queste grandi pretese, non è che sei un grandissimo appassionato, cioè ti piace molto ascoltare, ma l'attività non è che ne fai tanta, quindi però se la devi fare ce l'hai, quello che c'hai, diciamo che, scusa, questo mi sono un po' pirente, non quello che c'hai, quello che ti serve ce l'hai, capito? Sì, grande, perché molta gente lavora con i liburi, io ce li ho tutti praticamente, mancava quello degli 80, poi l'altro giorno ero con Marco, mi ha detto come fare, siccome ho tolto il balum e lo metto diretto, come quello che ho è diretto, è ad anelli, a cosa, ho capito, con gli occhielli bullonati, e mi ha detto ti agganci lì un braccio in una parte e un braccio all'altra, il polo diventa anche 80 metri, quindi con lo stesso calata c'hai cioè 80, 20, 15 e 40. Va benissimo. No, io ho tagliato, usato, farò quando mi vai mi bello, non devo andare per messo nessuno. Però quella l'ho tolta, Massimiliano, l'ho tolta perché quell'antenna mi è costata un pacco di soldi. E quando c'era vento e la vedevo laggiù, guarda, radiali da 8 metri, cioè radiali da 8 metri, non è buccia di gioco. Metteva troppo alto e quindi l'ho tolta, mentre invece quella dei 6 metri che c'è radiali corti, bella robusta, non le fa niente. Ma poi adesso ho stretto tutto, c'era tutto il piantone del rotore tutto mollato, il perno passante per non far girare la gabbia tutto mollato, tu ricordi quel perno che avevamo detto che poi quello l'ho fatto, l'ho messo il perno passante in acciaio inossidabile, era tutto mollato, ho stretto tutto, adesso anche l'altro giorno che c'era quel vento di greccare, l'ho guardato da sotto, manco si muoveva, mentre prima girava da una parte all'altra, da una parte all'altra, perché era tutto mollato, capito? Poi c'era il peso della 3 elementi, adesso è molto più leggero il sistema. No, va bene così Massimiliano, mi diverto lo stesso, stamattina mi stavo provando la Serbia, 5,9 più 10, cosa, in 40 metri, non ce n'è problema da qua su, no Massimiliano, a livello europeo copro tutto, poi a livello mondiale è chiaro c'è la sua propagazione e potenza, ma la Russia che va già gigetto, chi che schierreggia forte se lo devo attaccare? Ma infatti non va bene così, claro, non ci vogliono queste grandi pretese, anzi diciamo che dal punto dove sei tu è alla grande, va benissimo. Non ci arriva Massimiliano, io te l'ho detto, a livello locale, a livello europeo attacco anche amplificatori, se poi serve già ce l'abbiamo, un e mezzo, non è che l'SSB ha voglia di schirriggia, non problem, poi questo di quello che mi ha fatto Marco, che mi ha regalato Marco tanti anni fa, tiene 3 kW, non ha Balungis, quello è a... Hai visto quelli ai cosi, come si chiamano, gli occhiali, quelli che tengono le chiavi da batteria, moltissimi è agganciato, bullone è chiave da 13, non da 10, no, chiave da 13. Sì, registrato. Sì, no, già è un nome di polo quello, fatto bene, no? Avanti il break. Allora, qui da me fa il 5-7, radio 5. E qua sei 5-8, radio 5 fra, ciao, buonasera. Radio Ditto, quasi 9, radio 5. Sì, che non era più forte, perché l'altro giorno mi stava facendo 3-5, mi stava facendo, in bassa potenza però mi sembra che era, in alta mi sembra che era 5-7. Sto guardando. Adesso aspetto anche l'altro, che c'è sta il vento, ragazzi, le alimentatori accesi, me l'ammazzate. Guardando bene mi sembra che qualche punto l'hai perso fra, non lo so, ma l'hai lasciata sempre lì? Dai, più o meno sei lì, dai, forse giornata un pochino più forte, arrivati, però se Massimiliano sta confermando che il segnale è uguale, magari è più affidabile lui che è lontano, vai Massimiliano. Sì, adesso mi ero tirato così al volo, e il mio baracchino arriva l'ora, qua arrivi un po' di meno. Dipende dai baracchini, forse ieri io qua stavo usando, forse l'altro giorno stavo usando il 430 o fra. Quindi magari c'è qualche differenza leggera, capitasso sto usando il 440 e quindi forse per quello che arrivi leggermente più basso, dai. Perché non, questo è stato tarato tempo fa, lo smitter, con lo strumento, quello là non me lo ricordo, ma forse ci sono differenze da radio a radio, no, gioco, vabbè, comunque stai arrivando bene lo stesso. Ma sei in alta potenza adesso? E adesso sta quasi 20 watt, dai, vedi? Abbassa, mettilo abbassa. Una da meno. E gli ha sempre calato molto. Ma è sempre quel Cobra, quello lì? Ora, 1, 2, 3, 4, e allora fai da 3 a 5, da 5 a 7. E anche qua. Che cazzo c'è Ducendi fra? Cosa c'è Ducendi? Ho aumentato appena appena, ma l'ha fatto, dai. Perché ascolta, dimmi una cosa fra, come fai a avere la regolazione dei watt? L'hai fatta tu su quella radio? Fammi capire, perché se è la stessa radio che ho io, c'hai solo un pulsantino dove c'è bassa e alta, no, l'ho messo potenziometro. Ecco. Ti ricordi Massimiliano il lavoro che avevi fatto tu, la radio mi sembra ci avevi, che si regolava da dietro? Sì. No, lui ha preso quel praticamente da davanti, ha portato il filo dietro e ha messo il potenziometro, anziché stare alta e bassa, no, lui la regola da zero sino al massimo. Sì, ma dal pulsante non lo puoi fare quello, lo puoi fare dal trimmer. Quasi 9, sì, ho capito, ma quello l'ha eliminato, lui lo fa direttamente da dietro. Sì, però lui non è che ha preso i cavi dal pulsante, no? Da lì non regola, così è, lo fa. No, non l'ho preso dal pulsante, l'ho preso dal pulsante, da quello che c'è dietro, capito? Quindi l'hai preso dal trimmer. Esatto. Quello stavo dicendo a Claudio, dal pulsante non regolano, capito? Ascolta, domanda, in AM quanti watt ha la tua, giusto per vedere se è uguale alla mia, là? Allora, questa qua, adesso, questa qua c'è una camaretta, nella 50, 40, 50 modulati. No, allora non è come la mia, no? 50, ma che radio si trattenne qua? Mica sta parlando del Cobra lui. Il Cobra è quello che ho provato io, quello che tu c'hai, gemello di Massimiliano. Chi ci vuole un watt metro mio, ne dà 100 una M. Arriva a 200, lo fa lo stupido, lo fa. No, 200 non li dà, ce lo lì, ne darà 160, 170, però pompa, Poi lui fischiava, oh Massimiliano, stai attento, Io nel SSB 10 metri con la tua, fischiando, col tunnel più 3 tuo, quindi la radio tua e il microfono tuo, fischiando, con la T230 collegata in scala 200, ci mancava pochissimo. Ma non li dà, non li dà, claro, non li dà. Vabbè, poi non è che, cioè, con le radio non è che devi fischiare, no? Uno fischia per vedere il picco massimo a quanto arriva, no? Quando sei in modo lento non ti muove frusciando, quindi modulati sono intorno ai 140, credo in banda, una cosa del genere, parlati così, dai. Con la mia voce P&P era intorno ai 140, 150, 145, dai, sì, è così. No, no, fischiando 180 li dà, però Massimiliano. E agli stessi finali del coso, 440, uguali. Una bomba, salvati, una bomba. Quindi magari meno male te l'hai tenuta, lui va a vedere dell'altro che hai modificato, quello che stai provando adesso, quello non è il Cobra quello che stai provando adesso, chissà è Lugosio, ma ti si chiama, chissà SBE cos'è? Fra, quello che stai provando adesso non è il Cobra, come si chiama quello che hai fatto la modifica lo stesso, come si chiama? Ah, l'SBE, il Cobra, l'ARA 68. L'ARA 68, lui lo stesso, gli ha fatto la regolazione regolabile, Fra. Sì, già lo so, è una cazzata a farla, guarda lì, prendi i fili dal trimmer, ti porti il potenziometro dove vuoi tu e te lo fai regolabile, quello già lo so. Ma sempre quello famoso c'ha il Fra. Questa è la vita, io sì. Mi ci voleva girando io, la 68. Però mi sembra che era, se non mi ricordo male, l'avevo fatto blu e 40 canali pure, o no? L'hanno fatto la modifica lui, non c'ha la scheda ecco, ma c'ha tutte le altre modifiche Massimiliano. Se non hai fatto i 120 canali e commutato da 40 adesso, no? Esatto, Ah, ragionamento. Sì, ma quella non te l'avevo fatta almeno la modifica, quando siamo andati, io l'avevo portato io quando siamo andati a Borore al pranzo. Gigi gli aveva dato l'albino, ma te l'ha fatto albino. Cazzo, se si muoveva ci aveva già arrivato a chi invece da riparare a Sassari Massimiliano, da fare un salto a Bolo, da me, a berci un goccettino di vino buono, da me che mattina portarli un po' i baracchini, cazzo. Non so i baracchini che ci sono da riparare a Sassari, non hai idea tu? Ma chi c'è a Sassari? A Sassari ve ne sono. A livello strumentale, diciamo, ce n'è solo uno e già sappiamo chi è, ma non penso che si metta a riparare, magari così per qualche amico, come passatempo, ma già lo sappiamo chi è. Solo lui c'è a Sassari, non ve ne so altri, mi pare, non so se sto sbagliando. No, lascia perdere a lui è... lo fa a livello mistica, poi lo fa a livello di cortesie e ad amici stretti, quella è un'altra cosa. Io sto dicendo ad Albino, se si poteva uscire, le avrei portato un po' di lavoro a guadagnare i soldi, a farsi bagare. Albino uno che c'ha un po' di radio, si mette d'accordo, anche se non si può uscire, uno va alle porte, glielo spedisce 10 euro va a far Napoli. Eppure Albino non è caro, non è nulla, capito? Fa sempre a livello di amici, da. Certo che sì. Certo che sì, io ne ho due da revisionare, lo stesso sono dentro l'armadio, li avrei dati, capito? L'airbag è perfetto, l'airbag è... ma ci vuole un po' a comprendirlo, il maracchino che mi ha regalato il tuo Massimiliano, quello c'è una bella modifica, fatti il watt regolabile, tutto da davanti, bellissima radio quello, sono tanto che non l'attacco, mi sa 0, una mangiata, mi attacco la batteria, un fogaretto, con l'MB più 5. C'è canali anche, mi sembra, non mi ricordo. Senti, c'ha 40 canali sotto e 40 canali sopra. C'ho due canali, sì, me lo ricordo. Sì, una bella radio, poi non prende neanche colpi, mi sembra, quello. Da miglia, ho sentito un accantonello, cazzo, c'ha 20 watt, me. C'è fatte regolabili da 0, proprio da 0 a 20. 18 ne dà, dai. Non è buono. Aspetta che sto leggendo una cosa. Porto Torres, nuova scossa di terremoto tra Corsica e Sardegna. Vabbè. Avanti, Fra. Nata rigosa. Vabbè. Ciao, Fra. Pensavo di avere il bocio capo, ma mi pare. Non lo fumai così. No, a me non mi gusti. Io sempre qualche peccato ce l'ho. In questo periodo, hai visto ma c'è lì a produttore, scorso il terremoto, uscite a gabba, non basta con l'avviso, un terremoto, io. Ma è strano perché la Sardegna non è sismica, quindi può essere qualcosa a livello diciamo mare. Qua così sto leggendo, sassarioggi.it. Nuova scossa di terremoto tra Corsica e Sardegna. Quindi tra Corsica e Sardegna, quindi tra la Corsica e la Ginara è intorno ai 70-75 km di distanza. Ti sto mandando la foto. Intorno ai 70-75 km di distanza. E ancora non bastano. Roberto Quadrato dice che andava a ordinarsi la pizza e poi rientrava. Secondo me se la sta già mangiando pure la pizza. No, la sto mangiando. Mi stavo ascoltando. Sto guardando questo fatto del terremoto, ma io non lo leggo da nessuna parte. Qua c'è l'elenco di tutti i terremoti in Italia in tempo reale. L'ultimo è stato alle 18.56, magnitudine 1.2, fatto l'epicentro a Scheggia in provincia di Perugia. Ma della Sardegna non viene mai alcuna, e questo è quello ufficiale di tutte della cosa dove ci sono i terremoti. Chi la vede questa? Attenzione, Ecci. Ehi, registrato Fabrizio. Così c'è scritto, Robè, cosa vuoi dire? Porto Torre, nuova scossa di terremoto tra Corsica e Sardegna. Quindi boh, non penso che sia roba. Vabbè, avanti Fabri. Ciao Claudio, ben sentito, ascolta, mi serve un controllino veloce, ho ricollegato questa radio che era un pochettino ferma e poi devo fare un lavoretto e quindi mi allontano. Come sta uscendo? Fabri, alla grande. Come sempre, 9.40, radio Super Super 5. Va bene, ti ringrazio. Anche per te, Robè? Ma il segnale è buono, Fabri, però la radio è un po' così, dai, non è che mi piace più di tanto. Ma troppo compressa? Sì, troppo compressa. Il segnale è 9.45, però la radio è troppo compressa. Poi abbasso un po' di Mickey Game. Qua abbassa un pochettino, va meglio? No, se do una musichetta, fallo senza niente. Sì, già abbassato, dai, già abbassato, già va bene. Sì, l'ultimo passaggio mi è piaciuto di più. Sicuramente il telefono gli ha squillato. Qua è 9.15, anche io lo sentivo un po' compresso, era troppo Mickey Game forse. Sì, non è questione di compressione, è questione di potenza, anche lui tira molto ripetto e quindi spinge molto con quel microfono. No, però va bene, dai, ottimo. Sì, 40-45 anche qua. Siamo di fronte, va bene, però la radio è buona. E comunque del terremoto, io sto guardando, c'è un sito dove ci sono tutti i terremoti in tempo reale di tutta l'Italia e del mondo. Non ce n'è a Porto Torre, l'ho guardato sino a ieri notte, non c'è nessuna cosa, epicentro in zona della Sardegna, solo nelle Marche, in Grecia, tutte quelle zone lì ci sono, Ascoli Piceno, l'hanno sentito, ma le magnitudini sono molto basse, in Grecia 5.7. Era una vettica, a me me l'hanno mandato, io c'ho un gruppo di amici e stanno sempre messaggiando. Ma mandami il numero di Roberto che glielo giro, c'è lui. Il numero di Roberto me lo devo segnare. Io mi sono buono a fare tutti gli intrudi, fai tu. Non deve fare nessun intrudio, tu vai sulla rubrica, cerchi Roberto e me lo mandi WhatsApp. Così io gliele mando un messaggio, così si memorizza anche il mio. E mi sa che ce l'avevo io con Roberto, però non ce l'ho più. Ma Roberto io? Beh, Roberto, non ti sei. No, pensavo stessi parlando di un altro. Ma noi abbiamo un'amicizia su cosa? Su Facebook? Esci a vedere. Mi sa di sì. Aspetta. Se lo scrivo di lì. Voi siete su Facebook? Io su Facebook ci sono, no? Ci sono. Dimmi. dimmi se te lo vuoi mandare, che sto controllando. Che giovane che sei diventato qua, vabbè. No, già glielo mando su Messenger, dai. Sì, poi ti faccio uno scritto. Allora, K di Rosmato, va bene così. Ok. Oh, ma scusa, mio fratello mi avrebbe detto qualcosa, non mi ha detto niente mio fratello, vuol dire che non ho venuto. Cosa... Terremoto, c'è mai terremoto. Vabbè, te l'ho inviato. Vabbè, così hanno scritto, ma io ho cazzata. Ma io sono dentro il bocco di fesserie, ma ogni giorno c'è un fake news, ogni giorno ne scrivono uno. E non sanno cosa scrivi più, vabbè. Non hai capito, non sanno più cosa scrivere, specchio basso questo. Eccolo qua. Non sanno più cosa scrivere, no, vabbè. Io, vabbè. Cosa devi fare? Che non ti alzi, la mattina qua? Io? Io ti immagino che non riesco a stare a letto più di 4-5 ore, non di più, perché insomma la schiena non c'è questo problema lombare, è un casino. Io guardo alle 7:30 sono già per terra, in terra, 7:30. Vabbè, troppo tardi, là. Solo se le solito prendere con il microfono verso le 6. Il cartone di andare a ciocca. Cosa mi è arrivata? Io mi atto a quello, sì, vabbè, mi è arrivato, adesso me lo memorizzo. Ti stavo mandando il coso vecchio, che c'erano solo due anni che non c'era più quel numero, ma tu mi hai aggiunto, no, dici il numero vecchio, non esiste più. Quello l'ho cancellato io, quello che avevi prima. Quello che avevi prima l'ho cancellato io. C'è un capo di bugnetta, non c'è niente. Cazzo, è andato da Coso l'altra volta, potevi passare e te l'avresti preso l'MC80. Vabbè, claro, non ci ho pensato, poi c'era già un casino di pattuglia in giro e l'avrei trattato tremendo. Perché ho fatto proprio un salto così al volo al volo. Oh, Danilo, qua l'hanno fermato. Oh, anche a me non mi hanno fatto già tre volte sempre quello. No, ma siccome lui c'aveva il vecchio modello, quello di avanti ieri, ne abbiamo già fatto, questo è il quinto che facciamo in officina, ogni giorno sto facendo modelli nuovi, ma questo non va più bene, bisogna fatto, vabbè, la prossima volta glielo faccio. E allora ricordami che lunedì, perché io ho la stampante che non anda e l'ho staccata, lunedì mattina preparamelo uno, perché passamelo dai di quelli nuovi. Guardatemi il telefono. Come ti vai tu a stare in giro lunedì mattina? Ci sarei io tutte le mattine, esco, anche stamattina sono uscito, non sapessi. Domani mattina non esco perché tanto è tutto chiuso, ma io tutte le mattine vado qua alla piazzetta dove c'è la Cob che per le sigarette, prima andavo a prendermi anche c'è la pasticceria che stava facendo anche caffetteria, poi l'hanno fatta chiudere, ma ti sto parlando della settimana scorsa, sennò io tutte le mattine stavo uscendo, io tutte le mattine esco. Da casa alla Cob che io vado tutte le mattine. Va bene allora. Ad esempio domani tabacchina è chiusa zia Maria qua nella piazzetta di Carbonazzi. Però stamattina era aperto, sono uscito, ho preso due pacchetti, uno per oggi e uno per domani. Poi lunedì vado di nuovo a prendere le mie sigarette. Mi faccio il caffè, ma lo sto facendo a casa adesso. Però vado a prendere le mie sigarette. Cosa ragazzi me ne affutti. Quindi, e mi hanno fermato proprio lì, a Carbonazzi, tre volte. Alla fine ha già lottato un sistema. Qua giù in macchina sempre davanti, volevo un cartone d'acqua, ma non mi fermano. Buongiorno, dove stava? Mi, sono usciti adesso 10 minuti a prendere l'acqua. E il foglio, pronti. Arrivederci, mi raccomando a casa, E se ti chiedo uno scontrino, cosa vedrà? Quello di tre giorni? Uno scontrino? Buttatoci lo scontrino, grazie Giorgio. Sono entrato. Non è così, no, qua. Non è così come dici tu, però. C'è certa gente che lo fermano, le chiedono la spesa, mi facciano lo scontrino. Ah, così, No, vabbè, ma i vigili urbani, non carabinieri. Mi conoscono, tra l'altro. C'è qualche giorno, ho trovato la Carmelo Forte con un altro ex compagno di scuola, perché Carmelo era giovane con me, quindi. Guardate che sei in giro tu, tu non mangi, ho detto sì, mamma mi fa la spesa, allora imparate anche tu, io sto andando a fare la spesa, non c'avevo niente in macchina, va bene, ciao, ho la maschina sempre legata al collo e i guanti in lattice c'ho sempre quando guido. Vabbè, se guidi la tua macchina non c'è bisogno di avere guanti in lattice e mascherina, quello i guanti te li metti se devi entrare da qualche parte, poi la mascherina vanno scendere dalla macchina. Io dentro la macchina non uso né guanti né mascherina, dopo in macchina mia cosa non muovo, i guanti. quelle sono macchine, dove le trovo le mascherine? Adesso l'amica mia me ne ha portato una diecina in officina, fatte da lì con le cose, quelle che usano per gli anziani, come si chiamano, le fasce, quelle che mettono sotto nel letto per il coso, le ha tutte cucite, ma ti sto dicendo, se le vedi sono come quelle chirurgiche, belle, fatte bene, quelle del monopolo fanno ridere, due bestie di gozzo, queste è proprio quello fatta dentro, sono pure troppo filtranti, però sono belle, fatte bene. Stamattina vado a Carbonatic, la fa la spesa, cioè avevo i guanti perché me li ho messi perché dovevo toccare la frutta, e la mascherina lo so che non può entrare, ho fatto, ma dalle la mascherina, mascherina non se ne trovano, cosa davano me la prendo, e vabbè entri, però stia attento di cosa, io non ne ho di mascherina, se ce le fornisce la comunità io me le metto. Vabbè, portatela presso quella traccia che c'hai, che ti hanno fatto, è successo stamattina a mia moglie, ok? Perché ho voluto scegliere di andare da qua a Sciappone, qua sempre a Carbonazzi, ok? A prendere i detersivi, i dentifrici, insomma sciampi e balle varie cose loro, ok? E gli ho detto, guarda che macchina c'è la maschera tua, mettitela, portatela presso, e i guanti, c'è il pacco dei guanti lattice, e ok, ha fatto così. È entrato da qua a Sciappone, si è messo la maschera prima di entrare, buongiorno, tutti a posto. Mentre stavo facendo la spesa c'era un ragazzo vicino alla cassa che non aveva né guanti né mascherina, manco a farla apposta, sono entrati due poliziotti in borghese con la pettorina, polizia, andato lì perché qua dentro gli ha detto, perché devo comprare roba, non ha né mascherina né guanti, mi ha detto esca fuori, per questa volta non la sanzioniamo, la prossima volta sono 400 euro di contravvenzione, non si può più entrare nel modo più assoluto senza mascherina, perché infatti avevamo un discorso con Massimiliano l'altra volta, io prima andavo alle Rospine, alla Cobra, che senza mascherina, adesso sono obbligato a portarla perché l'altra volta non mi hanno fatto entrare. Sì, ma se non me ne sono di mascherina, è giusto tutta questa storia qua, ma se non ce l'hai di mascherina io cos'è, non magno, come faccio a entrare? Vabbè, te la fai, fai qualcosa. Se è la pizzatrice, il materiale, basta anche un pelo di quelli tipo, cosa ti posso dire, che non sia fine fine, però ci sono dei tessuti, te la fai, vabbè, te la fai, basta qualsiasi cosa, gli ha detto quel poliziotto, mi c'era mia moglie davanti, te lo faccio da lei, detto, la maschina non è, basta qualsiasi cosa, basta anche un pezzo di scotex in bocca prima di entrare nel negozio, però così lei qua non può entrare, e si mette ai guanti, ti faccio una cosa, vada fuori, ma vada fuori, la sto graziando, la prossima volta che lo becco 400 euro di contravvenzione. Sì, no, già ce l'ho io la mascherina mia personale, poi già ho anche le mascherine, anche quelle, se devi fare un gozzo ho quelle maschere a carboni attivi, non è quello il problema, però io dico, mi metto nei panni di uno che non ce ne ha, un anziano, che deve andare a prendersi il pane, deve abbigliare la mascherina, non mangia chi so. Non lo so, vabbè, io non ho il problema di mascherina. Io avevo il problema perché me lo stavo ponendo io, ho fatto una telefonata, a fine turno me ne hanno mandato 10 da Troncoreale, capito? Perché c'è, e sai chi me li ha portati, sì, già lo sai, no? Me li ha portati i fondai e me li ha dati, me li ha portati lui, capito? E ce li ho, e quelle buone, con il tappo giallo davanti che c'è il filtrino, vai Massimiliano. Massimo, stamattina sono andato al banco, Matteo, c'erano i barrancelli e ne avevano un pacco in mano uno, proprio per darle a chi non ce le aveva, le mascherine. E poi sono andato da Eurospin e mi ho messo due paia di guanti per mano, e poi c'avevo la mascherina perché dovevo toccare la merce, e magari dei soldi, quindi Emilia Villa, comunque io ne ho un pacco e me le ho prese da Pisano, le mascherine, solo chiamano una più a chi si era preso di misura. Che è Pisano, Natale? Quello del corso che ce l'aveva la farmacia, no? Però in mezz'ora le ha finite. Io me ne ho preso un pacco da 20, me ne ho preso, che quelle servono. Poi ne ho altre qua. Un paio ne ho fatto io. Vabbè, lì c'è detto non arrivano, io c'ho lo stesso un amico che va alla farmacia, dovevano arrivare ieri e non gliela mandata, forse gliela mandano lunedì, dice sono tutte, ci sono rifregate di coso, quelle che stanno arrivando dalla Cina, dice c'è tutto un giro di coso, di sdoganamento, dice stanno facendo perdere tempo. No, ce l'hanno da fare, Massimiliano, io comunque ce l'ho, me l'ha mandato 5, da parte Fondai, sono quelle buone che usiamo noi negli impianti quando scarichiamo i reagenti, e c'hanno il tappo davanti giallo e c'è il filtrino all'interno intercambiabile, quindi non ha problemi. Vai Massimiliano. Io ho, allora, vabbè, per tornare al discorso, ho quella mascherina che mi hanno dato i datori di lavoro, che è quella di Borva, che sembra due pezzi di scottex marrone girati al contrario. Non me l'ho mai messa e non me ne metterò neanche di quella che va di schifo brutto. Poi a noi tutti i giorni ci danno, robè, ci danno quelle da solo operatori, quelle classiche verdi da legare con l'aceto, con le quattro lacci, diciamo quelle lì. Poi io per viaggiare con il camioncino, siccome noi abbiamo i pulmini 9 posti, 7 posti, quindi col pulmino da 9 posti puoi viaggiare in 6, con quello da 7 posti puoi viaggiare in 4, per la distanza, no? Quando viaggio con quello mi metto quella col filtro, io ce li avevo un paio qua, e sono FFP1, non c'ho la P3 ma c'ho la P1, ma va bene lo stesso, solo per viaggiare in camioncino quella la metto. Quelle che ci danno loro, va? Sì, quelle col filtro sono le migliori, però siccome dice che questo virus passa anche dentro gli occhi, ci vorrebbe anche la mascherina per gli occhi. Se non ce l'hanno fornito, non ci hanno fornito né mascherina per gli occhi, cioè gli occhialini, va, diciamo così, che poi alla fine andrebbero bene anche quelli da piscina, mi volendo, sono tipo quelli alla fine gli occhiali. Ma quelli non ce li hanno forniti, e ci dovrebbero fornire anche le tutte quelle bianche, che neanche quelle ci hanno fornito. Vabbè, però, pure durante tutta la giornata io rimango in cabina dell'escavatore, quindi non è che sono a contatto con nessuno, io sono solo a contatto la mattina e la sera quando vado via con loro e basta. Vai Natali. Certo che è un macello, e poi quelle FFP1 no, ci vogliono quelle FFP3. Sono uguali Natali, le abbiamo confrontate, sono uguali, che poi dice che non vanno bene neanche quelle, quindi alla fine vanno bene anche quelle verdi. Nel camioncino noi parliamo il meno possibile, anzi, addirittura a volte siamo zitti tutti quanti proprio per questo motivo. No, se vi allunga Natali, io ho quelle che arrivano, ce le manda la magnata chimica, capito, con i filtrini, quelli lì, quando lavoravo, e c'ho quelle, e sono norma c'è, capito, quindi c'ho già nei bugari bogoli di Gosi, Gagliardi, F1, F2, F3, manca una mascherina seria, ok, una mascherina seria e tu sei a posto, non serve assolutamente a niente, perché quella che ho io è a triangolare praticamente, prende il naso e poi si allarga, prende la bocca e si lega molto sotto il mento, c'ha gli elastici non molto stretti, bianchi, e quelli lì, io ho sempre usato quelle lavorando, poi ci abbiamo, vabbè, ci sono anche quelle grandi con l'ossigeno eccetera, ma quelle, quando pulivamo le vasche dei reagenti le usavamo con la bombola attaccata dietro, quella è un'altra cosa, però queste sono buone. Ne ho 5, una per uno mia moglie e mia figlia, a me, e due di scorta, e sciabili al culo. Allora, poi si avvantano Massimiliano, che finisce il coronavirus, mi porto a me da cagare dentro la mascherina. Allora, si può pensare che quelle lì possono sempre servire, perché fra 10 anni siamo di nuovo puntati. No, sto leggendo, che mi è arrivato un messaggio da Pino, da uno che lavora alla forestale. Il primo aprile ci sarà un maremoto a Porto Tondo, è scritto di rosso. Sì, ama così bocca tutto. La pizza è arrivata. La pizza è arrivata. Ma Fabrizio ancora c'è, Fabri. Non l'ho più ripreso. Non l'ho più sentito. Lei c'era ancora il telefono. Comunque stavo uscendo bene, dai. Va bene. Se stavo usando, magari stava usando il 4 Mission, quindi non è che avverrà grandi cose. Come ti dico che va giù, ogni tanto si trovava a farsi contatti, l'ho fatto. Va bene, così è nata lì, così è. Comunque fanno bene, perché molta gente, stamattina lo stesso, quando sono andato qua nella piazzetta con per le sigarette, tutti i manzani, vedi tu qualcuno, ma dendi a birra in mano, ma ti sto parlando delle 8 del mattino, 8 e mezza, non di più, 8 e un quarto, Massimiliano, perché poi 8 e mezza, alla fermano 20, porto il cane. Ok, certo è, tutte le mattine lì. Stamattina è passato un signore, prima di me, mi ha toccato dove no, dice, io qui fatico di rogo, senza mascherina, senza guante, bottiglia in mano alle 8 e mezza del mattino, alle 8 del mattino, cazzo badendo la piazzetta, e lo si è proprio perso, cuocomani di quelli, cuocomani che più non ce n'è. Fatico di rogo è qui, no, mi sente fatico a me, no, è che stai di bonita, giù di trovata lì, un uomo bello piazzato, hai detto cazzo, lo bigliacciaffi. Se mi vuoi la mascherina dei guanti, hai compreso o non hai compreso, la tina è andata no, perché non capiva tra niente. Chi esitete la via al supermercato, perché si mette lì dove c'è la coda, no? La coda perché non la coda. E niente, io ho continuato a camminare, sono andato a fare le sigarette. Come sono uscito c'era già la pattuglia della polizia. Non è pigliato, aiuto, vamos. Si è accesa di burro e la prendono prepotente. Multato e denunciato. Una famiglia borghese era, c'erano i giubbotti con scritto polizia. La madre si pattuglia di bazzi. Sì, ci avevano un appunto bianca con la peggiata sopra la capota. Ed erano con la pettorina, sì, deve essere la stessa pattuglia, erano in due, sono arrivati, aiuto, siete in macchina, siete in macchina, è finita di fare il grande, forza, chissà le cazzo che erano i buttati. E credi mi pare dove, stamattina alle 8 ho fatto una fila dei rossini in cattolare, alle 8 e qualcosa, 30 prima di me ce n'erano. Sapeva qua un casino tra la Cobec e le Rospini via Calofrici, Rospini via Verona, no 30, noi andando con molta calma, tranquillità, mi sistemo prima al cane, dopo le 9 vado, mi pongo in fila, voi che viene 30, 40, 50, a tutti quei carrelli, voi era carriera, come sta via Verona a fare la fila, e già arrivo piano piano. Fino a tutti. No, poi mi sono avvicinato alla macchina, l'ho detto, finito di fare un cuocomane, e io gli ho detto, cosa ha detto? Che è un cuocomane? E lui è uscito, ha fatto un sorrisino, ma ti ha detto, boh, non ho capito. Adesso, sto guardando un video qua, c'è questo tipo che sta facendo la spesa dentro il negozio, c'ha la motta, la pesca, le bombo, la maschera e il coso dell'ossigeno, cazzo ci va. Mandamela! No, è su Facebook, non te la so mandare da qua. Tu vabbè, puoi entrare su Facebook. Sì, da telefono si mangia pochi giga io, Massilia. Posso entrare. Sì, sì, devo rimanere. Ma perché? Il mio collega me l'ha detto, Gabriele, forse tu non lo conosci. Ma sì, no, forse sì, boh, mio collega, quello che abita al monte. Mi ha detto, stamattina l'ho chiamato, dopo per la mascherina me l'ha fatto mandare lui da... Cioè l'ho chiamato ieri veramente. E mi ha detto, cazzo, ti faccio ridere qua. Allora c'è come ti serve tutto, l'amico nostro, noi abbiamo un ex, io abbiamo un ex collega, lui, l'amico nostro lo chiamiamo, che è mezzo esaurito. Già quando lavoravamo, cazzo, due o tre minuti era la vendice di mani grugloro, ho detto, perché ma se non hai fatto niente, pensavo, per i batteri, cazzo io sono attento a queste cose, per i batteri, pericolosi, ma se non hai fatto nulla, si ti aggiunto di fare un registro, cazzo, va bene, le batteri va, cazzo mi dice per busciacca, va bene, cazzo c'è proprio un malato mentale, cazzo, e mi ha detto, l'amico nostro non sai come è venuto a lavorare normale, no, poi... Quando si è cambiato, noi ci abbiamo messo la divisa perché sono gli spogliatori, ci ha portato la tuta bianca con gli stivali alti, no, stivali invernali, quindi gatto invernale stivali con la punta del saggio, gli stivali alti, la tuta tutta dentro, i guanti, doppi guanti in lattice blu, la mascherina, e allora poi sai cosa ci ha posto? Fa tappare la mascherina, a chi deve essere visto la televisione, quegli occhiali bianchi che li usiamo per tagliare l'erba, e in più si ha posto la rettina, lì da sempre battaglia l'erba, tanto marziano, ha detto Baria. C'è Silvio. Sì. Senta Gabriele, come fai a guidare adesso? No, no, già vengono a prendere, ma che cazzo ti voglio a te? Devi venire al furgone e ti voglio in cascione, anche io cuscino ti voglio, che mi pare il gatto extraterrestre. E se la parola che... Avanti Natale. Ognuno si veste come vuole. Cazzo Natale, infatti l'ho detto, mandami la foto, cazzo vuole la voglia, cazzo c'è una cosa che gli ho fatto la foto. Ma mi ha detto, claro, eravamo pisciate e reggiate, già lo sai, la greffa nostra, come gli ha detto, cazzo, ma già ho lasciato guai e vagato ancora più guai. Ma ha detto, claro, da ridere, da ridere, sembrava un astronauta. Cazzo, ma che ti hai buttato un goccio in battaglia all'eba? Perché questo protesto, c'hai già gli occhiali, e poi perché cazzo ti hai messo gli occhiali? Con chi devi parlare? Dove stai andando? Stai andando a Santa Maria Covina a fare il registro, a controllare l'impianto, dobbiamo tornare indietro, non possiamo stare in giro. Cazzo, che ti sei visto dove marziamo? I batteri, i batteri. Batteri, ma non vai girando le balle, ha detto vabbè, vai, duri batteri. Quelle tutte lì se le mettevano i giardinieri russi quando le cespugliavano, perché volano la cacca dei cani, e allora si mettevano quelle tutte lì col cappuccio, gli occhiali. Si ha portato, c'è la tuta bianca, i sivari, la tuta Trento, capito? I guanti, e poi ci ha messo questi occhiali, il cappuccio della tuta bianca, e più si è entrato che c'è la visiera a battaglia l'eba per proteggere, che te vecchia ne è molto, due vecchia ragazzi. E c'è questo video, no no, questa è la mascherina, guarda questa Massimiliano, così ce l'ho io. Così, ah ecco, no, no, questo non c'è sotto, magari, ma avrei fatto una bella leccata. Oh, oh, oh, un'annusata. Ammazza che te ne vai, ragazzi, tutte dove inventa. No, esteticamente è così la mia, però il tappo è giallo. Come se ce ne fosse stato quel rivestimento all'interno, è una magnata me l'avevo fatta di bucconi. Mi lasci tutta la vita così, I finanziamento merce. E sì, ragazzi. E io, ma che la si è fatta? Ebbè, là, queste cotolette, pronte, Sean, stanotte cotolette. Stanotte ci faccio due risate, c'è Ciao Darwin. Ehi, anche tu te lo guardi. Boh, so, è un programma che secondo me fa troppo ridere. Guarda questo video. Questo qua. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspet fumo di catti a mangiare. Che ore so? Vai, 9:15. Me ne vado sotto il tavolo, vai, a mangiare un boccone. Ok, un abbraccio a tutti e ci sentiamo a domani. Ok, tanto dopo no. Non ci rientro che mi guardo, ciao Davide, vai. Allora, ma bello, stessa notizia. Ciao Massimi, ciao Natali, ciao anche a Roberto se ne ascolta, a Fabrizio se ne ascolta, vai, ciao a tutti. Ci sentiamo domani, ciao, buona serata. Ciao, ciao, Massimi. Ciao, ciao, buona serata, ciao.